Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. No, no, Karen, Annabelle, no, you're going down. Tutti gli elicotteri sono tornati alle loro basi, ad attenderli sia nell'area ospedaliera che nell'area elicotteri dei vigili del fuoco. Ci sono delegazioni di Tarspok che attendono informazioni sull'area nord della città. I visi spaventati di chi ha assistito alla scena ghiacciante dei quattro uomini divorati da una sorta di cannibali non vengono subito notati da chi li attende. Si pensa che siano distrutti psicologicamente dopo aver sorvolato la zona della catastrofe, ma non che quella che sta per accadere è una catastrofe di ancora più grosse dimensioni. I dottori, in particolare, vengono trasportati dai loro colleghi nel reparto psichiatrico per farli riposare e capire a che punto è il loro stato psicofisico. I vigili rientrati con gli elicotteri vengono assistiti anche loro dai medici in caserma. Intanto, uno dei dottori, ripreso un pochino dallo shock, inizia a raccontare quello che ha visto. Ovviamente lo psicologo ascolta con molta leggerezza il racconto perché pensa che l'uomo sia in preda ad uno shock traumatico molto forte che lo porterebbe a distorcere la realtà di ciò che ha visto, assistito. L'altro dottore, disteso sulla brandina, ascolta il racconto del suo collega, ma guarda negli occhi lo psicologo senza riuscire a dire una parola. Quando lo strizza cervelli si alza per prendere uno psicofarmaco dallo scaffale da dare all'uomo che racconta, l'altro dottore, con una voce che sembra provenire dal fondo dello stomaco, gli urla contro. «No! Non serve quella merda! Dice il vero! E lo abbiamo visto in quattro, l'abbiamo visto in quattro cosa è accaduto su quel tetto. Date l'allarme generale invece di imbottire la gente di psicofarmaci. Secondo me siete entrambi sotto shock. Capita, sai, dopo uno shock forte si può distorcere la realtà. La realtà è quella che ti ha raccontato il nostro collega. Chiama alla caserma dei vigili del fuoco e vedi se stiamo delirando o meno. Ma nel frattempo isolate le persone intossicate dalla nube, da tutto il resto della popolazione ospedaliera. Lo psicologo si lascia convincere e intanto chiama la direzione dell'ospedale. Il direttore arriva di corsa nel reparto psichiatrico e non prima di aver salutato i due dottori si rivolge allo strizzacervelli chiedendo cosa stia accadendo. Se lo faccio raccontare da loro, per me sono deliri dati dallo shock traumatico, ma i colleghi hanno chiesto di chiamare ai vigili del fuoco per conferma e poi anche parlano di cannibalismo. Dicono che i due nostri colleghi e i due vigili non rientrati siano stati divorati da una sorta di zombie sul tetto di un palazzo. Eh? Zombie? Cioè quelli dei film. Il direttore esplode in una risata sarcastica. Non c'è benemerito cazzo da ridere, risponde uno dei due dottori. Chiama in caserma, chieda conferma e dia l'allarme immediatamente, ma soprattutto separi i pazienti intossicati dagli altri. Il direttore resta impietrito dalla forza e dal tono utilizzati dal dottore. Si gira verso lo psicologo e poi, prendendo il telefono interno dell'ospedale, manda una delegazione di dottori alla caserma, che tra l'altro si trova a pochi solati. Nel frattempo, senza dire alcunché di ciò che loro raccontano di aver visto, facciamo in modo di attrezzare il casermone a piano terra con abbastanza brande per tutti gli intossicati. E lei, dottor Cassano, si faccia allestire una scrivania con tutto quello che serve. Prendi qualche suo collega di fiducia e restate in contatto permanente con i pazienti. I vigili del fuoco, intanto, hanno raccontato la stessa versione dei dottori e mentre la delegazione di dottori si dirige alla caserma, dalla stessa caserma parte un'auto con due vigili in direzione dell'ospedale. Intanto, Anni, Mark e Aki, per non dare nell'occhio, hanno chiamato un taxi da un paesino ai piedi del Vesuvio. I tre sono arrivati a destinazione, pagano il tassista ed entrano nel palazzo. Molto silenziosamente iniziano a risalire le scale per non farsi sentire dagli altri condomini. Arrivati davanti alla porta di casa di Alni, restano sorpresi dai sigilli apposti dai Tarspok alla porta di casa. I refrattarius non sanno ancora nulla di ciò che è avvenuto nell'appartamento. Anni guarda i suoi due compagni e dice: «Sti pezzi di merda sono arrivati prima di noi. Per apporre i sigilli vuol dire che hanno scoperto la botola. Dio porco!» Poi il rumore di una porta che si apre dal piano superiore crea un po' di tensione nei tre, che evitano anche di respirare. Shh! Salite sopra senza far rumore. Era la voce sussurrata di Beatrice, che come al solito era sveglia all'alba ed aveva scorto dalla finestra il suo amico con gli altri due. Annie, Mark ed Annie salgono su senza fare il minimo rumore. Beatrice, con il dito lungo il naso in segno di far silenzio, li invita con l'altra mano ad entrare in casa sua. I'm gonna go get some more. Radiazione 5 maggio 2014, siamo in diretta e non grazie a Jenny Agarogna e nemmeno grazie a quegli altri pezzi di merda che stanno in conflitto sia con Jenny Agarogna sia con me, ma stanno in conflitto con tutto il mondo, con ogni cittadino che vuole essere libero, quelli che ci fanno cadere la connessione, quelli che ci vanno a tagliare i cavi nella cabina, quelli che arrestano, reprimono, manganellano, fanno di tutto, ammazzano e poi applaudono i loro colleghi assassini in un'aula di tribunale. Allora, radiazione, oggi abbiamo iniziato come ogni lunedì, come ogni diretta di lunedì, con il racconto di Nazero 13 e consecutivamente abbiamo mandato un brano. È stato mandato un brano da titolo Vesuvio. Ricordo che il brano è inerente al racconto, praticamente ad ottobre, se ci si riesce, finisce, dovrebbe uscire questo libretto con il racconto Nazero 13 e un CD allegato, CD con le musiche inerenti al racconto. Il tutto, se ci riusciamo, se ci riesco, in particolar modo perché me la sto vedendo io sia a scrivere il racconto che a fare musica, metteremo tutto ad ottobre, benefit per i detenuti, per i compagni detenuti. Allora, a parte questa prima parentesi pubblicitaria, che pubblicitaria non è, un'iniziativa da parte del sottoscritto, quindi come progetto di radiazione, ricordiamo che oggi la diretta d'azione, come tutti i lunedì, comprende la controinformazione, ma soprattutto la lettura. Stiamo leggendo il racconto di Edward Abbey, I Sabotatori, lo stiamo già leggendo da un po' di settimane, siamo arrivati a un buon punto, già c'è stato qualche cricca, qualche botto, insomma qualcosa già è avvenuto. Per chi si è perso le prime parti, può andarsi ad ascoltare i podcast che trova sul sito di radiazione.org, dove oltre ad ascoltare i podcast si può leggere soprattutto la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete ascoltare la radio in diretta, c'è cioè letture flash in home page sulla sidebar, ci cliccate sopra su play lunedì e venerdì dalle ore 17 alle ore non si sa, perché si sa quando si inizia ma non si sa mai quando finisce, specialmente il lunedì quando abbiamo le letture, perché stiamo anche cercando di recuperare qualche diretta vecchia. Ricordo che la radio inizia prima, cioè per chi vuole sentire solo un po' di musica, la radio va on air già dalle 15.45 fino alle 17, quando inizia la vera diretta d'azione. Allora, abbiamo detto per il sito radiazione.org, la mail è radiazione@vistici.org per chi vuole mandare testi, comunicati, scritti, locandine, iniziative, materiale da poi pubblicare sul sito di Radiazione, da mettere gratuitamente free download nella pagina fatta apposta sul sito di Radiazione, dove già potete trovare parecchi opuscoli, parecchi CD, parecchi manifesti, insomma un po' di roba sul sito di Radiazione la trovata. Quindi radiazione@vistici.org, oltre alle bestemmie, oltre alle critiche, oltre a mandare a fare in culo il sottoscritto, mandate anche qualche consiglio, i complimenti non ve li chiedi, i consigli per le letture da fare su Radiazione, specialmente chi ascolta le letture può mandare un consiglio sul libro che ritiene interessante e anche un pochino affine a quelle che sono comunque le tematiche del sito di Radiazione, del progetto Radiazione. Allora, penso che di aver fatto già la testa così, ora ci ascoltiamo un brano, e dopo il brano ci sarà Marcello che vi farà un piccolo riassunto delle puntate precedenti, e poi dopo inizierà subito il nuovo capitolo di I Sabotatori di Edward Abbey. Ora ci ascoltiamo un brano di James Chaton e dopo Marcello e I Sabotatori di Edward Abbey. 65, 95, 93, 95, 82, 90, 56, 38, 32, 26, 61, 31, 99, 28, 29, 02, 67, 88, 06, 75, 20, 87, 66, 89, 25, 01, 71, 16, 96. Dix, trente-deux, vingt-deux, dix, quarante-trois, vingt-et-un, soixante-deux, soixante-neuf, cinquante-quatre, quatre-vingt-six, vingt-six, vingt-neuf, soixante-trois, treize, soixante-et-un, quarante-quatre, trente-huit, quatorze, quatre-vingt-dix-sept, cinquante-huit, soixante-dix, douze, vingt, trente-quatre, zéro huit, zéro cinq, quatre-vingt-huit, soixante-dix-neuf, cinquante-quatre, quarante-cinq, quarante-sept, quarante-neuf, vingt-quatre, soixante-et-un, quatre-vingt-cinq, soixante-neuf, cinquante-trois, soixante-quatre, quatre-vingt-six, quarante-quatre, quarante-neuf, vingt-quatre, dix, quarante-quatre, trente-deux, zéro sept, soixante-et-onze, trente-quatre, quarante-neuf, quarante-sept, zéro quatre, quatre-vingt-quinze, soixante-cinq, quatre-vingt-quatre, soixante-sept, quatre-vingt-huit, cinquante, 98, 74, 33, 94, 42, 21, 25, 44, 87, 70, 66, 47, 80, 80, 98, 84, 60, 74, 99, 88, 71, 24, 00, 76, 52, 17, 05, 75, 17, 97. Seize, soixante-deux, cinquante-six, vingt-quatre, quatre-vingt-quatorze, zéro sept, cinquante-huit, quatre-vingt-dix, soixante-neuf, soixante-dix, quarante, zéro zéro, vingt-huit, douze, dix, quarante-deux, soixante-seize, vingt-et-un, soixante-dix-sept, onze, dix-sept, soixante-dix-sept, quatre-vingt, cinquante-trois, quinze, trente-et-un, soixante-et-onze, quarante-et-un, zéro un, dix-sept, zéro quatre, soixante-six, soixante-cinq, quatre-vingt-dix-neuf, quatorze, soixante-six, quatre-vingt-dix-sept, quatre-vingt-dix-huit, soixante-treize, dix-sept, soixante-et-un, trente-cinq, soixante, zéro six, soixante-dix, quatre-vingt-sept, quarante-huit, zéro sept, dix, treize, dix-sept, quatre-vingt-quinze, vingt-trois, soixante-huit, quatre-vingt-quatorze, vingt-sept, cinquante-deux, dix-neuf, quarante-huit, quarante-trois, cinquante-trois, zéro cinq, soixante-sept, quatre-vingt-trois, zéro zéro, vingt-deux, quatre-vingt-sept, quatre-vingt-cinq, soixante-neuf, quatre-vingt-dix-sept, quatre-vingt-deux. È in effetti di numeri si trattava questo pezzo che abbiamo appena finito di ascoltare, come di numeri si tratta la nostra diretta, perché evidentemente abbiamo citato la persona sbagliata, valeva solo per far andare avanti una partita di sabato sera, perché probabilmente la questura di Roma si erano giocati le scommesse e quindi si doveva giocare per forza, quindi capiamo. Andiamo avanti a testa alta. Diciamo non solo alta ma anche con una testa dura, e ricominciamo con i sabotatori, un libro ambientato nelle contrade dell'America del Nord centrale, nei canyon, nella parte selvaggia degli Stati Uniti, aggredita dal circuito industriale, aggredita da chi costruisce le autostrade, le pipeline, di chi perfora la terra alla ricerca di gas naturale, di petrolio, di chi stupra le possibilità della terra a vantaggio di un profitto. E questa banda, questa batteria composta da quattro personaggi: George Idak, John Smith, il dottor Sarvis e una donna di origine ebrea chiamata Habzug, che stanno per l'appunto iniziando a mettere sabbia, letteralmente sabbia, nei motori delle macchine che devastano. E adesso passiamo al momento in cui Idak e Smith vanno a giocare. Campeggio Natural Bridge National Monument. Potrei avere in prestito i vostri tagliabulloni? L'uomo sembrava abbastanza innocuo. Un signore abbronzato con pantaloni sportivi, polo e scarpe di tela. Non abbiamo tagliabulloni, disse Habzug con una voce un po' roca. Lui la ignorò, continuando a parlare a Smith. Noi abbiamo un piccolo problema, e indicò con la testa indietro verso un altro punto del campeggio, dove erano parcheggiati un pick-up e un camper, targhe della California. Un problema, ripeté Smith. Non abbiamo tagliabulloni, insistette Habzug. Vedo che ha un equipaggiamento da professionista, disse l'uomo, sempre rivolto a Smith, e fece cenno verso il furgone di Smith. Pensavo che forse avevate una cassetta degli attrezzi. Spedizioni oltre il limite Height Utah, era la scritta che copriva le portiere con grandi insegne magnetiche rosse. Sì, ma niente tagliabulloni, disse Habzug. Magari dei buoni tagliafili. Bene, signore, disse Smith. Possiamo prestarle un set di pinze, disse Habzug. un set di pinze. Le pinze ce le ho anche io, avremmo bisogno di qualcosa di più grosso. Allora provi a chiedere all'ufficio del ranger, suggerì Habzug. Dice? Finalmente si decise a rivolgersi direttamente a lei, come se non l'avesse ispezionata per tutto il tempo da cima a fondo con la coda dell'occhio. E allora farò come dice. E finalmente si allontanò attraverso i ginepri e i pini per raggiungere il suo di equipaggiamento. Un tizio insistente, commentò Smith. Un ficcanaso, direi, fece lei. Hai visto come mi guardava, il porco? Avevo voglia di tirargli un pugno sui denti. Smith stava pensando alle sue insegne. Immagino che non abbiamo bisogno di altra pubblicità. E andò subito a toglierle. Heidach e il signor Service tornarono dalla loro passeggiata nel bosco. Stavano preparando la lista della spesa per la successiva serie di raid punitivi, in programma tra 10 giorni a partire da oggi. Paranoico come sempre, Heidach preferiva che la discussione si tenesse lontano dal pubblico. Il dottor Service, ruminando il suo sigaro, leggeva la lista. Bracci rotori, scaglie di ossido e di ferro, DuPont Red Cross Extra, detonatori numero 50, accendi miccia e altre piccole cosette del genere. Doc si infilò il foglietto nel taschino della camicia. «Io non sono sicuro di approvare tutto questo», disse. «Ti va di far saltare quel ponte o vuoi solo giocare un po'?» «Non ne sono sicuro. Beh, allora metti ordine nella tua testa. Io non posso portare qui tutta quella roba solo in aereo». «Ci puoi scommettere che puoi. Non su un volo di linea, hai presente dove ti fanno passare prima di farti salire su un aereo oggi come oggi? Allora noleggia un aereo, Doc, noleggialo questo aereo. Ma tu pensi che io sia ricco sfondato, vero? Beh, io non ho ancora mai incontrato un dottore povero, Doc. Fai di meglio, compra un aereo del cazzo. Beh, non posso nemmeno guidare una macchina. Fai prendere lezioni di volo a Bonnie. Beh, Heidach, sei proprio un vulcano di idee oggi. Beh, sì, è una bella giornata, vero? Una fottutissima bella giornata. Il dottore appoggiò il braccio sulla larga schiena di Heidach che gli strizzò la spalla muscolosa. George, disse, cerca di avere un po' di pazienza, solo un po'. Pazienza, pazienza un cazzo! George, non sappiamo esattamente quello che stiamo facendo. Se il vandalismo costruttivo diventa distruttivo, come la mettiamo? Forse faremo più bene che male. C'è chi dice che se attacchi il sistema lo rendi solo più forte. Sì, sì. E se non lo attacchi, sventra le montagne con le miniere, piazza dighe in tutti i fiumi, asfalta il deserto e ti sbatte comunque in prigione. Ci sbatte. No, a me no. A me non mi sbatteranno mai in una delle loro prigioni. Non sono il tipo, Doc. Io morirei prima e me ne porterei dietro 10 di loro. No, no, a me no, Doc. Rientrarono nel campeggio unendosi a Bonnie a Seldon Sin. Ora di pranzo, aria fusa di un pomeriggio nuvoloso li opprimeva. Heidach aprì un'altra lattina di birra. Stava sempre aprendo un'altra lattina di birra e stava sempre pisciando. «Ti andrebbe un altro pokerino?» chiese Smith al dottor Service. «Scaccia questo caldo!» Doc emise una nuvola di fumo di sigaro. «Beh, se ti va...» «Ma non è ancora imparato», intervenne Heidach. «Questa scorreggia brizzolata ci ha già ripulito 2 volte». «Imparo, ma sembra che continui a dimenticarlo», disse Smith. «Beh, a poker non si gioca più», l'interruppe bruscamente Bonnie. «Dobbiamo andare, se non riporto questo cosiddetto chirurgo dal Albuquerque entro domani, ci faranno causa per negligenza. E questo significa che non avremo più altri soldi e premi assicurativi più alti e non potremo più giocare e divertirci con 2 buffoni come voi, qui, nella natura incantata». Come al solito aveva ragione, quindi abbandonarono rapidamente il campeggio e imboccarono la strada, tutti e 4 stipati anca contro anca nella cabina del furgone di Smith. Il cassone del camion, coperto da un tetto di alluminio, trasportava l'attrezzatura per il campeggio, le scorte di cibo e la cassetta degli attrezzi di Smith, la borsa termica e altro materiale della sua professione. Il piano era di accompagnare Doc e Bonnie fino alla pista di atterraggio a Fry Canyon, dove avrebbero trovato ad attenderli un piccolo aereo privato che li avrebbe riportati a Farmington, New Mexico, in tempo per prendere il volo serale per Albuquerque. Un giro dell'oca costoso e stancante, ma sempre meglio dal punto di vista del dottor Service che farsi avanti e indietro quell'orrenda distesa di deserto gibboso, una cosa come 650 km sulle 4 ruote della sua Continental. Aidak e Smith avrebbero invece proseguito su quello che un tempo era il fiume, oggi il braccio superiore del lago Powell, per ricongiungersi al prossimo obiettivo, 3 nuovi ponti. Il giorno seguente Smith doveva andare in macchina a Danksville, dove aveva un appuntamento con un gruppo dei suoi clienti escursionisti per un giro di 5 giorni sulle Harry Mountains dello Utah, quella catena montuosa scoperta e battezzata per ultima negli Stati Uniti. E Aidak? Aidak non lo sapeva. Magari sarebbe andato con Smith, oppure avrebbe girovagato un po' per i fatti suoi. La sua vecchia Jeep, caricata con tutti i suoi valori, era stata lasciata la settimana prima in un parcheggio a Wawip Marina, vicino a Page, nei pressi dell'ultimo, finale, impronunciabile, impossibile obiettivo. La fantasia preferita di Smith, la diga, Glen Canyon Dam, la diga. Come Aidak avrebbe potuto avere di nuovo la sua Jeep, o come sarebbe tornato lui a riprendersela a questo punto, non lo sapeva. Se necessario, sapeva camminare 300 km, 400, su e giù, dentro e fuori l'incontaminata regione dei canyon, la più spettacolare creata da Dio. Poteva prendere in prestito uno dei canotti di Smith, gonfiarlo e pagare per 250 km sulle acque stagnanti del lago Powell. O poteva aspettare che Smith lo portasse laggiù al suo ritorno. La bellezza della situazione era, per Aidak, sentire che poteva essere scaricato in qualche momento, in qualunque posto, nel mezzo di non si sa dove, con il suo zaino, 4 litri d'acqua, poche mappe essenziali, scorte di cibo per 3 giorni. E ce l'avresti fatta a sopravvivere e a prosperare, contando solo su se stesso, uomo. Tutta quella carne di bua fresca, spasso per le montagne, tutta quella selvaggina viva e vegeta nelle ampie fenditure del canyon, tutte quelle sorgenti di acqua dolce sotto i lucidi pioppi, a un giorno di marcia l'uno dall'altra. Così pensava, così sentiva, la sensazione di libertà era esilarante, per quanto tinta di un'ombra di solitudine, un tocco di dispiacere. Il vecchio sogno dell'indipendenza totale, non dover dire a nessuno, né donna né uomo, galleggiava sopra i suoi giorni come fumo da una fantasticheria, come una nuvola d'argento con una fodera scura, perché persino Aidak, quando affrontava la cosa direttamente, si rendeva conto che la solitudine totale poteva essere folle. Era folle. Da qualche parte, nei recessi della solitudine, oltre la selvatichezza e la libertà, si trovava la trappola della pazzia. Persino l'avvoltoio, quell'anarchico con il collo rosso e le ali nere, la più indolente e arrogante di tutte le creature del deserto, persino l'avvoltoio, alla sera ama riunirsi con i suoi simili e scambiarsi qualche storia, la maggior parte appollaiati sui rami degli alberi più alti e più morti del quartiere, ingobbiti e avvolti nei loro abiti di ali neri, a parlottare insieme come in un concilio di sacerdoti cospiratori. Persino l'avvoltoio, pensiero fantastico, deposita le uova, si fidanza per un po', si siede a covare sopra un gruppetto di uova di avvoltoio e produce figli. Il capitano Smith e la sua ciurma, divorando allegramente chilometri e chilometri, lasciarono la strada secondaria del Monument all'incrocio con lo Utah 95. Qui videro una fila di veicoli a 4 ruote motrici, CJ5, Scout, Blazer e Bronco, equipaggiati in maniera elaborata con riflettori, tetti rinforzati, rastrellieri per armi, cariche, argani, ruote con cerchioni larghi, radio a onde corte, coprimozzi cromati e altro ben di Dio, parcheggiato uno dietro l'altro al margine della strada. Ogni veicolo aveva sulla portiera la stessa insegna, un'insegna massiccia completa di aquila, scudo e cartiglio. Contea di San Juan, squadra di ricerca e soccorso, Blending, Utah. Was the devil's lover? Why are we mad? goes on behind elevator doors while the elevator plummets from the 69th floor. All the cars lost in the scrapyards of paradise. The newspaper photographs of all come alive. Dead in the streets, who's that girl? E allora questi erano gli Ultravox con il brano Fear in the Western World, dopo la prima lettura per oggi di I Sabotatori di Edward Abbey, che è avvenuta dopo l'ennesima volta che ci è venuta a mancare la connessione, molto stranamente, visto che per 4 ore di fila la radio non ha avuto problemi e guarda caso proprio all'inizio della diretta vi accade lo stesso problema. Vabbè, noi andiamo avanti, facciamo spaccare e rompere la testa a qualcun altro a divertirsi dentro questi viscidi giochetti del cazzo, e andiamo a leggere la prima notizia di controinformazione con un testo di rivendicazione che arriva dalla Grecia, dove è stato incendiato un veicolo della compagnia GAS, G4S, si legge pure GAS, però è G4S come diciamo la pronuncia esatta. Allora, testo rivendicativo: è appena un po' al di sotto della quantità della vostra repressione. Loro hanno aperto un buco penetrante, grande quanto un mitragliatore, da quale nemico apertamente ti tormenta giorno e notte nel modo più spietato, e ha ucciso qualunque cosa che tenevi segreta dentro di te. Da lì ti hanno colpito incessantemente con i loro attacchi assassini e hanno violato il tuo corpo nei suoi movimenti più sacri e inviolabili. È il buco attraverso il quale il nemico ha vomitato il suo peggior tipo di odio con la peggior rabbia, e sorvegliare spietato, più tirannico, è il peggior assassino della tua intimità nascosta. Questa era la prima citazione, poi ce n'è ancora un'altra: è lo spioncino che porta via i tuoi movimenti più insospettabili o privati. Appena hai visto il freddo e brillante occhio del boia che sbircia attraverso le serrature e permea il tuo essere interiore. Oh, occhio spietato, come vorrei sigillarti una volta per tutte, per mettere fine permanentemente al tormento malvagio e al furto dell'anima nelle mani degli aguzzini. Oh, spia dei miei gesti più intimi, quanto ti odio, e come aspiro alla tua morte, alla tua distruzione, alla tua fine. Nelle prime ore di martedì 29 aprile 2014 abbiamo incendiato un veicolo della compagnia di sicurezza G4S, ex gruppo Group for Securicor, all'incrocio tra Karaiskaki e Smirnis, nella regione di Rendis Nikaia. Questa compagnia è una delle più grosse nella parapolizia privata del mondo, gestisce e opera in prigioni private in Inghilterra e America ed è responsabile per i sistemi di sicurezza del muro della vergogna in Palestina. In Grecia ha la più grande disponibilità di furgoni portavalori per trasportare in sicurezza i beni delle banche e altri interessi. Ha rifornito la maggioranza delle prigioni del paese con gli ultimi ritrovati in sicurezza elettronica e assumerà la gestione dei campi di concentramento per migranti. La nostra azione è parte della promozione di attività contro l'intenzione del governo greco di approvare le condizioni speciali di detenzione e la costruzione delle sezioni di massima sicurezza nel carcere di Domokos. Solidarietà con i combattenti prigionieri e accusati, lotta fino alla libertà contro il moderno totalitarismo con ogni mezzo necessario. Guai a chi accetterà la prigione come condizione di vita. E le citazioni che abbiamo letto, le prime tre citazioni che abbiamo letto all'inizio, che fanno parte del test, sono prese dal racconto della ribellione del carcere di Alikarnasso a Creta del 1990, fatta dall'ex detenuto Yannis Petropoulos. E questa era per quanto riguarda la prima notizia di controinformazione della giornata. Guarda, si parla di spie, qualcuno spia pure qua e rompe il cazzo durante le dirette, vabbè, la dedichiamo a loro, la dedichiamo a quelli che si rompono la testa per mettere a tacere la voce di radiazione ogni lunedì ed ogni venerdì. I vostri stipendi tutte in medicine. Un bel infarto, poi se arriva un infarto è proprio ben accetto. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Armageddon Beatles con il brano Gotland, e poi dopo si ritorna qui con il racconto di Edward Ebbey, I Sabotatori. gruppo di ricerca e soccorso era seduto a gambe incrociate all'ombra con Coca, Pepsi, 7-Up, strette nelle mani pelose. Questi uomini frequentano la chiesa con regolarità. Alcuni di loro si stavano agitando tra gli arbusti lungo il tracciato del rilevamento ormai privo di nastri e paline per la nuova strada in costruzione. Uno di loro fece cenno con un braccio a Smith, che fu costretto, suo malgrado, a fermarsi. Quello che aveva sollevato il braccio andò verso di loro. «Ehi là!» abbaiò Garrulo. «E se questo non è il vecchio Cohab Smith, il vecchio Seldon Sin Smith, come te la passi, Smith?» Lasciando il motore in folle, Smith rispose: «Bene, Bishop Love, bene, come i peli della rana, che non è. Tu che ci fai qui in giro?» L'uomo, imponente come il dottor Sarvis, si arrampicò pesantemente sulla portiera del camion, appoggiò le enormi mani rosse sulla cornice del finestrino abbassato e sorrise. Sembrava un allevatore, forza da vendere, denti gialli come i cavalli, la faccia di cuoio metà ombreggiata da un grande cappello, la camicia con i bottoncini automatici. Sbirciò oltre Smith i tre passeggeri nella penombra della cabina. La luce all'esterno era abbagliante. «E voi, che dite, tutto bene?» Il dottore annuì. Bonnie regalò il suo sorriso frigido da receptionist. Hydak pisolava. Smith non fece nessuna presentazione. «Bishop Love, il vescovo amore», tornò a rivolgere le sue attenzioni a Smith. «Seldom», dice, «era proprio da un po' che non ti vedevo da queste parti. Come ti vanno le cose?» «Beh, non posso lamentarmi», Smith accennò con il capo ai suoi passeggeri. «Ho quanto basta per vivere e pagare la mia decima». «Pagare la tua decima? Ma non mi dire! Ho sentito raccontare qualcosa di un po' diverso». Il vescovo rideva per far capire che stava solo scherzando. «Io pago la mia al fisco, che è più di quanto ho sentito. Paghi tu, Bishop». Il vescovo guardò intorno e il sorriso si allargò ulteriormente. «Ora, però, per favore, non mettere in giro altre voci. Inoltre», strizzò un occhio, «il prelievo fiscale e socialista è incostituzionale, è un peccato contro l'uomo e Dio, lo sai questo?» Smith mandò su di giri il motore per un istante. Lo guardò, interrogativo, sguardo interrogativo di Love tornò indietro. «Ascolta, stiamo cercando qualcuno, c'è un uomo a piedi qui da qualche parte che sta dando molto fastidio, pensiamo possa essersi perduto». «E beh, che aspetto ha?» «Porta scarponi numero 45 o 46 con il carro armato in Vibram». «Beh, non è una grande descrizione, Bishop». «Lo so, ma non abbiamo altro. L'hai mica visto in giro?» «No, lo supponevo». «Beh, però noi lo troveremo abbastanza in fretta». Pausa. Di nuovo Smith diede un colpo all'acceleratore. «Stammi bene, Seldom, mi raccomando, la prossima volta che passi da Blending, passa a trovarmi, capito? Dobbiamo parlare di un po' di cose noi altri». «Beh, allora ci vediamo, Bishop». «Bravo, ragazzo». Il vescovo afferrò la spalla di Smith, gli diede una bella scrollata, poi si tirò indietro dal finestrino e Smith ripartì. «È un tuo vecchio amico quello?» chiese Bonnie. «No, un vecchio nemico, sì. Il vecchio Bishop Love. Non gli sono mai andato tanto a genio». «E perché lo chiami Bishop?» «Perché è vescovo nella chiesa». «Quell'uomo è un vescovo nella chiesa. La chiesa dei santi dell'ultimo giorno, la chiesa mormona. Abbiamo più vescovi che santi», Smith sorrise. «Perché diavolo? Darling, a quest'ora sarei anch'io un vescovo se avessi tenuto il naso pulito e mi fossi tenuto alla larga da Short Creek o Cohabitation Canyon». «D'accordo allora», disse Bonnie, «sentiamo la traduzione». Hydak, che aveva solo fatto finta di dormire, non rinunciò ad aggiungere il suo commento. «Vuole dire che se non avesse inseguito il suo uccello per tutto lo Utah e l'Arizona, a quest'ora si sarebbe episcopato una diocesi anche lui». «Nessuno stava parlando con te, bocca di fogna». «Lo so, e allora taci, subito». «Più o meno è così», disse Smith, «come ha detto George». «E allora che ci fa una squadra di ricerca e soccorso su questo progetto di strada?» «Beh, loro lavorano in stretto contatto con il dipartimento dello sceriffo della contea, quelli che si potrebbero definire aiutanti dello sceriffo. Sono soprattutto un gruppo di uomini d'affari che, nel loro tempo libero, giocano a fare vigilantes. Non intendono far male a nessuno. Ogni autunno salvano dalla tempesta di neve alcuni cacciatori di cervo della California. Ogni estate tirano fuori dal Grand Gulch alcuni boy scout disidratati. Cercano di fare del bene. È il loro hobby. Quando vedo qualcuno che viene a farmi del bene, disse Aydak, tiro fuori la pistola. Quando sento la parola cultura, disse il dottor Service, tiro fuori il libretto degli assegni. State andando tutti e due fuori tema, disse Bonnie. Proviamo a dare un ordine logico alle nostre riflessioni. Lei e i suoi compagni fissarono attraverso il parabrezza il panorama rosso che si parava davanti a loro, i dirupi azzurri, i canyon pallidi, la sagoma spigolosa del Wudenschubat che si stagliava contro l'orizzonte nord-occidentale. «Quello che voglio sapere», continuò, «è chi è Bishop Love e perché ce l'ha tanto con te, capito, Smith? Devo o non devo fargli il malocchio?» «Mi chiamo Seldom», disse lui, «e il vecchio Love mi odia perché l'ultima volta che abbiamo incrociato le corna è lui che ci ha rimesso, ma è meglio se non li sai i particolari». «Beh, probabilmente no», disse Bonnie. «E allora che cazzo è successo?» Il furgone avanzava lungo la strada di terra rossa della contea dello Utah, ballonzolando sui solchi e sulle rocce. «Mi sembra un po' fuori asse», disse Smith. «Allora che cosa è successo?» ripete Bonnie. «Ma giusto una leggera diversità di opinioni che al vecchio Love costò circa $1,000,000. Volevano locazione di 49 anni su una sezione della terra demaniale che si affacciava sul lago Powell. Aveva in mente un certo sviluppo turistico, case per l'estate, centri commerciali, campi d'aviazione e così via. Ci fu un'udienza a Salt Lake City e io e alcuni amici ci rivolgemmo alla commissione per l'assegnazione delle terre affinché annullasse l'accordo. Beh, non fu una passeggiata, ma alla fine li convincemmo che il progetto di Bishop Love era una truffa, com'era, e lui non mi ha mai perdonato. Poi in precedenza abbiamo avuto diverse volte scontri simili. Beh, pensavo fosse un vescovo. Lo è la domenica e il giovedì, soltanto nelle sere di studio della chiesa. Il resto del tempo si dedica alla proprietà immobiliari, uranio, bestiame, petrolio, gas, turismo, quasi tutto quello che profuma di denaro. Quell'uomo può sentire una banconota da un dollaro cadere su un tappetino consunto. Adesso è in corsa per l'assemblea legislativa dello Stato. È pieno di gente come lui qui nello Utah. Sono loro che mandano avanti le cose, mandano avanti tutto questo. Mandano avanti le cose come meglio possono, per Dio e per Gesù e per tutto quello che quei due non vogliono. È proprio quello su cui si buttano i tipi come Bishop Love. Dicono che è una formula tutto compreso, piuttosto conveniente. Gesù salva all'interesse composto dell'8,5%, e quando uno fa l'ultimo versamento va dritto in paradiso. Lui e tutti gli antenati che riesce a scovare nelle biblioteche genealogiche è abbastanza per far venire a un uomo la voglia di vivere in eterno. E allora di loro che Aydak è tornato, disse Aydak, e questo gli darà una calmata. E lanciò la sua lattina di birra dal finestrino e ne aprì subito un'altra. Bonnie lo studiò. «Pensavo dovessimo sporcare solo le strade asfaltate», disse. «Questa non è una strada asfaltata, nel caso tu abbia gli occhi troppo iniettati di sangue per vederlo. Affanculo!» E lanciò anche la piccola linguetta metallica dal finestrino. «Direi che hai tirato fuori dal tuo cilindro una replica a dir poco brillante, Aydak», disse lei. «Davvero brillante! Un autentico lampo di saggezza per tutte le occasioni. Vaffanculo!» «Tusci, Doc, hai intenzione di startene lì seduto come una montagna di lardo e lasciare che questo suino pedoso mi insulti?» «Beh, penso di sì», disse Doc dopo aver considerato la situazione. «Meglio così, sono una donna cresciuta e posso benissimo badare a me stessa». Aydak, vicino al finestrino, guardava lo scenario fuori, il paesaggio monotono della regione dei canyon, grandioso, desolato e spettacolare al limite della decenza. Tra quei pan di zucchero e pinnacoli rosa, rossi, contro il cielo, giaceva la promessa di qualcosa di intimo, l'intimo del remoto. Un segreto e una rivelazione. Un giorno, pensava, affronteremo anche questo. Arrivarono al Fry Canyon, che consiste in una fessura nella soletta della roccia larga 3 metri e mezzo e profonda 15, attraversata da un vecchio ponte di legno, un magazzino in calcestruzzo di scorie che funziona come negozio, stazione di rifornimento, ufficio postale e centro sociale del Fry Canyon. E poi una pista d'atterraggio spianata con un bulldozer lastricata di pietre, punteggiata di sterco di vacca, sulla quale aspettava un Cessna a 4 posti, il Fry Canyon Airport. Smith superò la mosciata manica a vento che penzolava da un lato nei pressi dell'ala del velivolo e si fermò. Mentre lui scaricava i passeggeri e i bagagli, il pilota uscì dal negozio bevendo Coca-Cola da una lattina. Nel giro di 5 minuti, il giro di baci, Smith e Bonnie, strette di mano, abbracci e saluti, fu ultimato e il dottor Service e Miss Hapzug, ancora una volta aviotrasportati, volavano sulla rotta sud-est verso il New Mexico, verso casa. Idak e Smith fecero il pieno alla cassetta di birra, ripartirono verso il sole, verso il basso, verso il fiume, controvento, dentro la formazione rocciosa di rocce rosse del fiume Colorado, cuore dell'ovest americano, dove soffia sempre il vento e non cresce nulla tranne il ginepro rachitico sull'orlo di un canyon, cespugli neri sparsi e cactus macilenti. Dopo le piogge invernali, se arrivano, e di nuovo dopo le piogge estive, sempre se arrivano, ci sarà una breve effimera fioritura. La media annua delle precipitazioni raggiunge i 12 centimetri. È un tipo di terra che provoca orrore e ripugnanza nel cuore di chi la terra la lavora, alleva bestie e valorizza i terreni. Non c'è acqua, non c'è terra coltivabile, non c'è erba, non ci sono alberi, tranne qualche indomito pioppo in fondo al canyon. Nient'altro che roccia scheletrica di pelle, di sabbia e polvere, il silenzio, lo spazio, le montagne più in là. Thank you. questi erano Cellab con il brano Chemical Halo. Ora si ripassa alla controinformazione, si resta in Grecia, dove è stato inviato un pacco bomba alla stazione di polizia di Itea, Focide, in Grecia. Leggiamo il testo rivendicativo, che ha per titolo L'Espresso di Mezzanotte. Il testo è suddiviso in punti. Leggiamo il primo punto: il viaggio della morte, carcere di Malandrino, stazione di polizia di Itea. La cospirazione delle cellule di fuoco rivendica l'invio di un libro munito di esplosivo alla stazione di polizia di Itea. La stazione di polizia che abbiamo deciso di attaccare non è solo una base militare nemica, è il luogo dove il prigioniero Ilya Kareli è stato picchiato e torturato prima di essere consegnato ai suoi ultimi carnefici in carcere di Nigrita. Quello che è successo nella prigione della stazione di polizia di Itea è stato volutamente nascosto. I secondini del carcere di Nigrita sostengono di aver ricevuto il detenuto in pessime condizioni prima che tingessero le proprie mani di sangue. Ma un carnefice non può incriminare un altro. Per questo motivo la testimonianza inconfutabile rimane sempre la vita stessa e la sua infelice impronta nell'interrato delle strutture penitenziarie della polizia. Là, nelle tombe di cemento, dove le ombre umane sono ammassate l'un sopra l'altra per giorni, settimane, mesi. Persone che sono state dimenticate dalla luce diurna perché il loro sole è la lampadina gialla di un soffitto che non si spegne mai. Sono ricordate solo dalle pareti ammuffite delle celle, sepolte nel sangue, nella disperazione e nei gemiti provocati dai passaggi dei maiali in divisa. Se questi muri avessero voce, la bruttezza si vergognerebbe di se stessa, ma non si narra la bruttezza, la si colpisce. Come un motto nelle strade dice, l'azione sostituisce le lacrime. Per questo motivo abbiamo deciso di agire nuovamente e colpire il nemico in faccia, nella sua stessa base. Punto 2. Ultima fermata, carcere di Nigrita. Nel carcere di Nigrita, a Serres, il comitato di accoglienza dei secondini aspettava la sua vittima, un branco di iene pronte a finire il lavoro dei precedenti torturatori. I carnefici vili e sadici hanno preso la propria preda incatenata, insegnandogli per 3-4 ore i metodi correzionali e la cultura legale della sua morte. Ovvio, dopo l'assassinio di Kareli e l'arresto dei secondini, questi hanno iniziato a denunciarsi a vicenda, fingendo di avere dei rimorsi. Sappiamo che specialmente nelle carceri chiusi di provincia molti secondini non solo che non provano vergogna per il proprio lavoro, ma si comportano anche come dei piccoli tiranni, rivolgendosi ai detenuti in modo spregiativo, umiliandoli e anche picchiandoli. Sembra che essi agiscono con la garanzia dell'immunità, che proviene dal fatto che vivono lontano dalla metropoli e quindi probabilmente pensano di essere irraggiungibili dalla mano armata della guerriglia urbana. Ma questa miserissima tribù di pastori e ubriaconi si sbaglia di grosso. Il nemico possiede sempre un nome e un indirizzo, ovunque si nasconda. Punto 3. La lotta internazionale. Stankheim, Guantanamo, Domokos. Dopo l'evasione del guerrigliero urbano Christodoulos Xiros, l'ex combattente, ministro della giustizia e ora burattino di Vendias, ha annunciato l'operazione del carcere di massima sicurezza a Domokos. Poco dopo è stato annunciato il disegno di legge sulle condizioni speciali di detenzione di tipo C che si applicherà sulla maggior parte delle carceri chiuse. Una legge ghigliottina per i prigionieri politici, gli accusati di cosiddetta criminalità organizzata. 60% dei prigionieri è accusato di criminalità organizzata, organizzazione criminale, e per i detenuti indomabili. Nessuno, ovviamente, si chiede come mai l'intero disegno di legge non comprende nemmeno un paragrafo sulle modifiche edilizie che conformerebbero il nome che le è stato dato, ad esempio la legge sulle carceri di massima sicurezza. Questo succede perché le carceri di massima sicurezza sono una realtà già da anni in Grecia. Tutte le nuove carceri di tipo chiuso degli ultimi anni sono moderne tombe di cemento fatte di calcestruzzo e sbarre, costruite in mezzo al nulla. Anche il cielo viene nascosto dal filo spinato, mentre le telecamere osservano ogni movimento dei detenuti. La realtà quindi smentisce la retorica delle autorità. Non si tratta di carceri di massima sicurezza, ma di massima punizione. Tutti gli anni proposti dal servo di Dendias hanno a che fare con l'operazione di un nuovo carcere all'interno dell'esistente, senza il diritto dei permessi, senza visite, senza la comunicazione con il mondo esterno. Questa è la totale cancellazione dei detenuti, destinati ad essere distrutti là dentro. Questa è la cancellazione dei sensi e della coscienza. Questo è un vecchio trucco dell'autorità. Un'attenta versione psichiatrica scientifica del castigo vendetta della democrazia contro coloro che osano sfidarla. Le bianche celle di Stankheim, in cui i guerriglieri urbani della RAF furono uccisi nella Germania occidentale, sono gli antenati di Domokos. Guantanamo è l'incarnazione del modello americano, perdita di sensi, della comunicazione, della coscienza, una sentenza di morte a ripetizione. Nel frattempo, la costruzione del carcere di massima sicurezza prefigura la costruzione di una società carceraria suprema. Ogni cosa che viene oggi sperimentata sui detenuti, le cavie dei scienziati di legge e ordine, domani sarà testato sulla macchina sociale. Dato che la maggior parte delle illusioni economiche tende a recedere sempre di più a causa della crisi, quello che emergerà sarà tolleranza zero e la dottrina di legge o ordine. Questo è il passaggio dalle rovine dello Stato sociale a quello di polizia. In questo momento però sembra che dentro le galere greche della democrazia qualcosa si stia muovendo. Detenuti, anche se non ci piacciono le generalizzazioni dei soggetti collettivi, hanno partecipato in una grande mobilitazione all'interno delle mura contro il disegno di legge sulle carceri di tipo C, assistenza dei pasti comuni, mobilitazione notturna, proteste continue, eccetera. Attraverso la loro mobilitazione i detenuti rifiutano di accettare le condizioni speciali di isolamento come una condizione di vita che lo Stato li sta preparando. In questa lotta non sono da soli. Quarto, la chiamata. Purtroppo la fortuna ci ha nuovamente girato le spalle. Quando il pacchetto è arrivato nel cuore del nido di vipere della stazione di polizia 29 aprile 2014, uno sbirro ha compreso le vere intenzioni del mittente. Come risultato è stato chiamato il reparto artificiere per disinnescare la bomba libro che gli abbiamo mandato. Questo crea un lascito negativo per la metodologia e la pratica dei pacchi bomba in Grecia, perché il nostro scopo è essere efficaci e non spendere molto tempo in simbolismo. Da adesso in poi molte cose cambieranno, presto ritorneremo. Tracciando le vie dell'attacco ci incontriamo nella pratica con altri combattenti da origini completamente diverse, i quali con mezzi propri vogliono far deragliare la rotta del progetto sul carcere di massima sicurezza. Quindi un saluto ai combattenti dell'organizzazione Tolleranza Zero ed considerate la nostra azione come un piccolo contributo alla loro chiamata rivoluzionaria lanciata dopo l'incendio dell'ufficio di Michelacchi. Dedichiamo naturalmente con tutto il cuore questo nostro gesto d'attacco, che purtroppo è rimasto incompleto, ai nostri 10 imprigionati fratelli e sorelle nelle celle carcerarie: Panagiotis, Olga, Giorgos, Damanos, Gerasimos, Teofilos, Mialis, Arsis, Giorgos, Christos. Lo dedichiamo anche al membro della FAI Zavaridis e al compagno anarchico Mandilas, perseguito per il progetto Fenice. Nello stesso tempo inviamo la nostra solidarietà con tutti i mezzi al ricercato guerrigliero urbano Christodoulos Xiros. Christodoulos utilizzava la frase «una volta guerrigliero, per sempre guerrigliero». Dalla clandestinità ora una chiamata d'assalto. E non ci importa molto che certe volte le parole non corrispondono e spesso suonano così differenti. Noi non apparteniamo alle pseudo-ideologie che annegano nelle parole, senza neanche essere testate nella pratica. La proposta di Xiros rivela un crocevia per quelli in grado di vederlo, un crocevia d'attacco dove persone da percorsi differenti con esperienze diverse si possono incontrare. Ma stiamo parlando. Da adesso in poi continueremo ad esprimerci attraverso l'azione per la chiamata. Mandiamo la nostra solidarietà anche ai prigionieri politici che hanno rivendicato la loro partecipazione nei gruppi armati. Infine, poiché la nostra bussola rimane sempre bloccata sull'orientamento della cospirazione internazionale della Federazione Anarchica Informale, non possiamo dimenticare di mandare i nostri fraterni saluti ai due compagni detenuti della FAI in Italia, ad Alfredo Cospito e Nicola Gai, che si sono rivendicati il ferimento dell'amministratore delegato di un'azienda nucleare. Mandiamo la nostra solidarietà internazionale anche a Gianluca Iacovacci, che si è assunto la responsabilità per l'azione della FAI contro gli obiettivi del potere e che si trova detenuto assieme all'anarchico Adriano Antonacci, accusato dello stesso caso. I due compagni si trovano in due differenti carceri italiane e un processo di fusi si svolgerà contro di loro, senza la possibilità di incontrarsi. Questo significa che saranno presenti attraverso le telecomunicazioni mentre si troveranno a centinaia di chilometri dal tribunale. Il loro più duro isolamento è organizzato in questo modo. Contemporaneamente il movimento ufficiale italiano è indifferente al loro caso e li ha messi in disparte. Queste sono situazioni familiari, siccome i riformisti sono ovunque e in Grecia della stessa razza. A parte questo, questa nostra incompleta azione fa parte della nostra partecipazione alla chiamata internazionale per la solidarietà ai compagni italiani detenuti che si svolgerà dal 16 al 22 maggio. Salutiamo anche tutti gli anarchici della prassi detenuti in tutto il mondo, Monica Caballero, Francisco Solar, Gabriel Pombo da Silva, Claudio Lavazza in Spagna, Carlos Amelie Fallon in Messico, Tamara Sol, Alfonso Avial, Hermes Gonzalez e gli accusati nel caso Security in Cile, Damian Camelio in Francia, Marco Camenici in Svizzera e Ilya Romanov in Russia. Onore a Sebastian Overslugi, ucciso durante una rapina armata in una banca del Cile. Tutto continua, torneremo presto. Cospirazione delle cellule di fuoco, FAI FRI. E questo era il lungo comunicato dei compagni greci che hanno inviato il pacco bomba alla stazione di polizia di Tea. Ora diciamo una cosa, non tutti i compagni d'Italia hanno dimenticato Gianluca e Adriano, fortunatamente una parte li ha dimenticati e volutamente dimenticati. Ora ci ascoltiamo un nuovo brano, sono That Politics, Magnetic Attraction, e poi dopo si ritorna qui con la lettura dei Sabotatori di Edward Ebbey. We'll be right back. Haydack e Smith, sballottati nel deserto rosso, passarono senza fermarsi, perché Smith non sopportava i ricordi, la deviazione verso la vecchia strada che un tempo portava al piccolo villaggio di Hyde. Hyde, un tempo, era casa di Seldom Sin e ancora sede del quartier generale della sua azienda, oggi totalmente sommersa dalle acque della diga. E allora tirarono dritto, giungendo in prossimità del nuovo ponte sulla gola del White Canyon, il primo dei tre nuovi ponti in quella zona. Ma ci vogliono tre ponti per attraversare un unico fiume. Consultate una cartina. Quando la diga del Black Canyon bloccò il Colorado, le acque tornarono indietro, sommergendo Hyde. Il molo del traghetto è 50 km di Canyon più su del traghetto. Il posto migliore per attraversare il fiume, oggi detto il lago Powell, era risalire la corrente fino al Narrow Canyon, e per raggiungere il ponte sul Narrow Canyon era necessario passare il ponte sul White Canyon a est e quello sul Dirty Devil Canyon a ovest. Totale tre ponti. Haydack e Smith smisero di ispezionare il ponte sul White Canyon. Questo, come gli altri due, era ad arco e di proporzioni massicce, costruito per durare. Le teste dei bulloni sulle aste diagonali della travata erano grandi come il pugno di un uomo. George Haydack si mosse lentamente per alcuni minuti sotto le imposte ad arco, dove i nomadi, a dispetto della recentissima costruzione del ponte, avevano già lasciato segni del loro passaggio con scritte di vernice spray sul pilone di cemento e anche escrementi seccati e rimpiccioliti nella polvere. Risalì scuotendo la testa. «Non lo so», disse. «Non lo so, questo stronzo di ponte è davvero grande». «Beh, ce n'è un altro più grande», disse Smith. Guardarono giù, oltre il parapetto, 60 metri più in basso, il corso sinuoso del ruscello intermittente del White Canyon, rigidamente stagionale. Le loro lattine di birra veleggiavano leggeri come bicchieri di carta nel buio della gola. La prima corrente estiva le avrebbe trascinate con sé, insieme a tutti gli altri detriti del genere, fino al bacino artificiale del lago Powell, dove l'immondizia raccolta lungo l'alveo trovava una sistemazione ideale. E quindi adesso avanti verso il ponte centrale. Stavano scendendo, andando giù, eppure è così grande la scala delle cose qui, così complesso il terreno, che né il fiume né il canyon centrale sono visibili fino a che il viaggiatore non giunge quasi sul bordo del canyon. Prima videro il ponte, un doppio arco decisamente gradevole che si innalzava in acciaio argentato parecchio al di sopra del livello della sua strada. Poi poterono vedere le pareti stratificate del Narrow Canyon. Smith parcheggiò il camion. Scesero e camminarono lungo il ponte. La prima cosa che notarono fu che lì il fiume era scomparso. Qualcuno si era portato via il Colorado. Questa non era una novità per Smith, ma per Haydack, che lo conosceva soltanto per sentito dire, la scoperta che il fiume in realtà sparito fu come una scarica elettrica. Al posto del fiume, quello che vedeva era un corpo immobile di liquido verde sudicio, morto, stagnante, spento, con una pellicola di petrolio che galleggiava sulla sua superficie. Ma sulle pareti del canyon, una patina di limo e sali minerali, come in una vasca da bagno, ricordava il livello raggiunto dalla piena. Lago Powell, bacino artificiale, trappola di limo, serbatoio di evaporazione e discarica indifferenziata, fogna nazionale di 300 chilometri. Fissarono giù. Alcuni pesci morti galleggiavano, ventre all'aria, sulla superficie oleosa, tra bucce d'arancia e piatti da picnic. Un albero trasportato dall'acqua, un pericolo per la navigazione, sfidava le leggi della statica in una posizione paurosamente inclinata, il fetore della decomposizione, debole ma inconfondibile, saliva per 140 metri fino alle loro narici. Da qualche parte, sotto quella superficie immobile, giù, dove l'oscuro limo si stava depositando, dovevano per forza esserci ancora i pioppi sommersi, i rami morti gravati dalle alghe, le loro antiche ginocchia appesantite dal fango. Da qualche parte sotto il pesante fardello dell'acqua che non va da nessuna parte. Sotto il silenzio le vecchie pietre del letto del fiume aspettavano la resurrezione promessa. Promessa da chi? Promessa dal capitano Joseph Seldon C. Smith, dal sergente George Washington Haydack, dal dottor Service e da Miss Bonnie Hubzook. Ecco da chi. Ma come? Haydack scese tra le rocce e ispezionò le fondamenta del ponte, cemento vero. Le imposte dell'arco, piantate in fondo alle pareti di arenaria del canyon, giganteschi travi a doppio T, tenute avvitate insieme con viti grandi come il braccio di un uomo, bulloni grandi come piatti. Ci vorrebbe una chiave con una testa da 35, pensa Haydack, e una sbarra d'acciaio da 5 metri come manico per riuscire a smuovere quei bulloni. E allora si diressero verso il terzo ponte, che stava a cavallo della foce ora sommersa del Dirty Devil. Passando, superarono una strada sterrata non segnalata, una stradina percorribile con la jeep che conduceva verso Maze, Land of Standing Rocks, Fins, Lizard Rock, Land's End, terre di nessuno. Smith lo sapeva bene che erano terre di nessuno. Il terzo ponte, come gli altri, aveva una struttura ad arco, tutta in acciaio e cemento, costruita per sopportare il peso di camion da 40 tonnellate carichi di carnotite, pechblenda, bentontite, carbone bituminoso, terra di atomacea, acido folforico, fango di perforazione di Schlumberg, minerale di rame, argillite petrolifera, catrame di sabbia, qualunque cosa potesse essere estratta da una natura intatta. Avremo bisogno di una carrettata di esplosivo potente, disse Haydack. Questi non sono come i ponti a traliccio con la struttura in legno che avevamo nel Vietnam. Beh, diavolo, chi diavolo ha detto che dobbiamo farne saltare tutti e tre, dice Smith. Basterà farne saltare uno per bloccare la strada. Il mio amor di simmetria, dice Haydack. Un bel lavoro preciso su tutti e tre sarebbe ben più apprezzato. Non lo so, pensiamoci su, vedi anche tu quello che vedo io. Appoggiandosi al parapetto del ponte sopra il Dirty Devil, guardarono a sud verso il porticciolo di Hyde Marina, dove alcuni abitanti galleggiavano ai loro ormeggi, e quindi fissarono la loro attenzione su qualcosa di più interessante, poco distante. La pista di atterraggio di Hyde, sulla quale sembravano avviati i lavori di ampliamento. Videro un quarto di miglio di terra ripulita, un pick-up, una pala su ruote, un autocarro a cassone ribaltabile. È un bulldozer Caterpillar D7 che si stava fermando. La pista di atterraggio si estendeva da nord a sud su una terrazza di terra piatta sotto la strada, sopra il bacino artificiale. Un'estremità della pista di atterraggio arrivava a non più di una quindicina di metri dal bordo della terrazza, con uno strapiombo verticale di 90 metri fino alle acque verdastre del lago Powell. «Lo vedo!» disse finalmente Smith contro voglia. E proprio mentre guardavano, l'operatore del bulldozer scese dalla macchina, salì sul pick-up e guidò fino giù al molo. Di nuovo una pausa pranzo. Seldom, dice Haydack, quel tipo ha spento il motore, ma è sicuro come loro che non ha tolto niente? No, assolutamente. Beh, Seldom, io ho bisogno che tu mi dia una lezione su come funzionano quei bestioni. Non qui, qui, adesso! Non alla luce del giorno. E perché no? Smith cerca una scusa. Non con tutte quelle barche a motore nel porto. Cosa vuoi che gliene freghi a quelli là? Abbiamo i caschi e i tuoi pick up. La gente penserà che siamo operai. Non sei qui per creare un'onda da surf vicino alle banchine. Ma verrà fuori uno spruzzo da urlo. No, l'hai detto anche tu, vero? Non possiamo fare una cosa del genere. No, la possiamo fare perché è una questione d'onore. Smith pensò, rifletté, meditò. Alla fine le rughe profonde cambiarono posizione e la sua faccia di cuoio si rilassò in un sorriso. «Una cosa prima», dice. «Che cosa? Togliamo la targa dal mio camion. Già fatto. E andiamo!» La strada girava intorno alle teste dei canyon laterali, saliva, scendeva, saliva di nuovo fino alla mesa che sovrastava il porticciolo. Curvarono e si ritrovarono sulla pista di atterraggio. Intorno non c'era anima viva. Giù Al porticciolo, a mezzo miglio di distanza, alcuni turisti, pescatori e battellieri riposavano all'ombra. Il pick-up dell'operatore del Caterpillar era parcheggiato di fronte al bar. Onde calde tremolavano sopra le pareti di roccia rossa, tranne che il ronzio di un battello a motore a largo. Il mondo era silente, narcotizzato dal caldo. Smith guardò dritto fino ad una fiancata del bulldozer, una bestia di ferro di mezza età coperta dalla polvere. Spense il motore e fissò Haidak. «Sono pronto», dice Haidak. Si calcarono in testa gli elmetti e scesero. «Prima accendiamo il motore, giusto?» domanda Haidak. «Per scaldare il diesel, giusto?» «Sbagliato, è già caldo. Prima diamo un'occhiata ai comandi per essere sicuri che il trattore sia nella posizione di partenza corretta». Smith salì al posto dell'operatore, piazzandosi di fronte ad una schiera di leve e pedali. «Questa è la leva della frizione del volano, disinseriamola», la spinse in avanti. «Questa è la leva per selezionare la velocità, mettiamola in folle». Haidak osservava con attenzione, memorizzando ogni dettaglio. «E quello è il gas», disse. «Giusto, questa è la leva per la marcia, avanti e indietro, anche questa dovrebbe essere in folle, invece questa è la leva di controllo del regolatore, la mandiamo tutta in avanti, adesso premi il freno dello sterzo, quello di destra». Smith pigiò il pedale di destra e lo blocchiamo in posizione, fece scattare in avanti una levetta che si trovava sul pavimento della macchina. «Adesso, così adesso è tutto in folle, il freno è bloccato e non può andare da nessuna parte». «Esatto, adesso». Smith smontò dal sedile e si diresse verso lo sportello laterale del motore. «Adesso facciamo partire il motorino d'avviamento. I nuovi trattori sono molto più semplici e non hanno bisogno del motorino d'avviamento, ma di questi vecchi dinosauri ce ne sono in giro ancora un sacco. Questi grandi trattori possono durare anche 50 anni se vengono trattati bene. Questa qui, invece, è la levetta di controllo della trasmissione. Per partire deve trovarsi su High, sopra. Questa è la leva per la perdita di compressione. La mettiamo su Start, accensione. Adesso disinseriamo la frizione del motorino di avviamento con questa manopola qui», e spinse la leva in avanti verso il blocco motore. «Oh Gesù!» mormorò Haidak. «Eh sì, è un po' complicato. Adesso dove ero rimasto? Adesso apriamo la valvola del carburante svitando un po' qui, ecco così. Adesso tiriamo l'aria, adesso mettiamo in posizione la levetta del minimo, adesso giriamo la chiavetta. È la chiavetta dell'iniezione per il motorino di avviamento?» «Sì!» Smith girò la chiavetta. Si sentì uno scatto, nient'altro. «Non è successo niente», dice Haidak. «Oh, io ritengo che qualcosa sia successo», disse Smith. «Abbiamo chiuso un circuito, adesso. Se questo fosse un trattore vecchio modello di quelli che dico io, la prossima cosa da fare sarebbe prendere la manovella e avviare il motore con quella, ma questo modello ha lo starter elettrico. Vediamo se funziona». E Smith appoggiò la mano su una leva sotto la manopola, tirò la frizione e indietro il motore brontolò, si rivoltò e si avviò. Smith rilasciò la leva dello starter, aggiustò l'aria e il motore girava senza intoppi. «Questo è solo il motore a benzina», disse Haidak. «Dobbiamo ancora far partire il diesel, giusto?» «Giusto, George. Arriva qualcuno?» Haidak salì sul sedile di guida. «Nessuno in vista». «Bene». Il motorino d'avviamento era caldo. Smith chiuse l'aria. Il motore teneva il minimo in maniera confortante. «Ok, adesso prendiamo queste due leve qui», Haidak osservava di nuovo con la massima attenzione. «Questa sopra è il controllo del pignone e quella sotto quello della frizione. Adesso spingiamo fino in fondo la leva della frizione verso il blocco motore e tiriamo tutta in fuori quella del pignone. Adesso spostiamo la levetta del minimo per lasciare che il motorino di avviamento giri alla massima velocità. Adesso innestiamo la frizione del motorino di avviamento». Tirò in fuori la leva della frizione, il motore rallentò, si arrestò quasi, poi riprese velocità, spostò la leva per la perdita di compressione su Run. Adesso il motorino d'avviamento sta facendo partire il motore diesel contro la compressione, disse Smith urlando su per il ruggito dei motori che ingranavano. Adesso partirà immediatamente. kitchen's ice, and from the distance came a low rumble like the sound of thunder. Last thing he saw were these creatures that were evil. Streifen durch die Nacht, die Toten sind erwacht, ein ganzes Leben hinter uns gebracht. Wir streifen durch die Nacht, die Toten sind erwacht, ein ganzes Leben hinter uns gebracht. Wir streifen durch die Nacht, die Toten sind erwacht, ein ganzes Leben hinter uns gebracht. Era partito, Aidak annuì, ma non era più sicuro di seguire tutto. Il trattore stava facendo adesso un gran baccano, il fumo nero usciva a getto, facendo ballare il coperchio incardinato sulla sommità del tubo di scarico verticale. Adesso il diesel sta marciando, gridò Smith, osservando il fumo di scarico con approvazione. Tornò sul sedile dell'operatore e disinserì la frizione del motorino di avviamento. Chiuse la valvola del carburante, chiuse l'interruttore dell'iniezione e si voltò verso Aidak. Sedettero uno di fianco all'altro sul largo sedile ricoperto in pelle. «Adesso siamo pronti a guidare questo affare», strillò sorridendo ad Aidak. «Sei ancora interessato o preferisci che ci spariamo una birra?» «Andiamo», rispose Aidak, anche lui urlando. Scrutò la strada e il porticciolo un'altra volta per verificare che non ci fossero segnali di attività ostile. Tutto sembrava in ordine. «Ok», urlò Smith, tirò una leva sollevando di mezzo metro la lama idraulica nel bulldozer del terreno. «Adesso selezioniamo la velocità di marcia. Ce ne sono 5 in avanti e 4 indietro. Dal momento che sei una specie di principiante e la scogliera è solo a 100 metri per il momento, adesso metteremo la velocità più bassa. Il trattore era rivolto verso lo strapiombo, spostò il selettore di velocità in prima, spostò la leva nel senso di marcia indietro verso la posizione avanti. Non successe nulla. «Non sta succedendo niente!» disse Aidak, di nuovo innervosito. «Esatto, infatti, non deve succedere niente!» disse Smith. «Ma non abbiamo finito, adesso mandiamo un po' su di giri il motore!» Tirò indietro al massimo la leva del gas. «Adesso inseriamo la frizione del volano!» Tirò indietro la leva della frizione. Il grande bulldozer cominciò a tremare mentre gli ingranaggi della trasmissione scivolavano in posizione. Tirò tutta la leva indietro, la leva della frizione, e la fece scattare in posizione centrale. Di colpo il trattore cominciò a muoversi. 35 tonnellate di ferro si spostavano a est verso St. Louis, Missouri, via Lago Powell e Narrow Canyon. «Adesso dovremmo scendere», disse Smith alzandosi in piedi. «Aspetta un minuto», urlò Aidak. «Come si fa a guidare? Vuoi anche guidare? Ok. Usa queste due leve al centro, queste sono le leve della frizione dello sterzo, una per ogni cingolo, tira la leva di destra e disinserisci la frizione sul lato destro». Lui fece così, il bulldozer cominciò a curvare prepotentemente a destra. «Per girare a sinistra, tiri l'altra!» Lasciò andare la leva di destra, tirò indietro quella di sinistra, il trattore cominciò a curvare prepotentemente a sinistra. «Per girare con un angolo ancora più stretto devi azionare i freni della frizione dello sterzo!» Pigiò sul primo, poi sull'altro dei due pedali d'acciaio che spuntavano dai pannelli del fondo. «Hai capito?» «Ho capito!» strillò felice Aidak. «Lasciami fare!» Smith si spostò lasciando a Aidak i comandi. «Sei sicuro di aver capito come funziona la cosa?» chiese. «Non distrarmi, io adesso sono impegnato!» gridò Aidak con un gran sorriso che si faceva largo sotto la barba incolta. «D'accordo!» Smith scese dal pedellino sulla barra di trazione della macchina che si muoveva lenta e saltellava leggermente sul terreno. «Adesso, attento!» gridò. Ma Aidak non lo sentì. Giocando con le leve e i freni della frizione solcava il terreno in una folle corsa verso la pala cicatrice. Ai margini della pista di atterraggio, alla velocità di 3 km orari, il bulldozer si schiantò contro la pala, una grande massa di metallo che collideva con una più piccola. La pala si sollevò e scivolò a terra su un fianco. Aidak allora sterzò verso il bordo della pista, il precipizio più in là, spingendo davanti a sé la pala. Sul suo volto era disegnato un ghigno feroce. Nuvole di polvere si sollevarono sopra il cigolio, lo scricchiolio, il lamento e il gemito dell'acciaio sotto sforzo. Smith montò sul suo pick-up e avviò il motore, pronto ad abbandonare il campo al minimo indizio di pericolo. A dispetto del tremendo frastuono, da nessuna parte giungevano segnali di allarme. Il pick-up giallo rimase al bar, giù. Al porticciolo un baltelliere faceva il pieno alla sua imbarcazione, due ragazzini pescavano pesci gatto in fondo al molo. Alcuni turisti facevano le loro scelte nel negozio delle curiosità. Una coppia di falchi volava alta, sopra le pareti di roccia, irradiate dal sole. Era tutto intorno pace. Alle prese con le leve di controllo, Aidak vide, oltre le nuvole di polvere, il bordo della mesa che avanzava verso di lui. Oltre quel bordo, dopo un bel salto, si stendevano le acque del lago Powell, la superficie corrugata dall'onda di un battello di passaggio. Pensò fosse giunto il momento di smettere. «Ehi!» gridò rivolto a Smith. «Come si ferma questa roba?» Smith, appoggiato alla barriera del suo camion, mise le mani a coppa intorno alle orecchie e strillò a sua volta. «Che c'è? Come si ferma questa roba?» ululò Aidak. «Cosa?» ululò Smith. «Come si ferma questa roba?» «Non ti sento!» La pala, sospinta dalla lama del bulldozer, arrivò all'orlo, rotolò oltre, svanì. Il bulldozer lo seguiva imperterrito, sbuffando fumo nero dal metallo bruciato della colonnina di scarico. I cingoli d'acciaio mantennero una presa ferma sulla sporgenza di pietra arenaria, spingendo la macchina in avanti nello spazio vuoto. Aidak balzò giù, mentre il punto di non ritorno si avvicinava. Il trattore bulldozer tentò, o almeno così pareva, di mettersi in salvo. Essendo un cingolo più avanti nell'area dell'altro, il trattore seguì una repentina giravolta sulla destra, cercando di aggrapparsi al bordo della mesa e riguadagnare in qualche modo il solido appiglio. Inutilmente, ogni tentativo risultò vano. Il bulldozer proseguì la sua corsa con un ultimo sussulto e precipitò, cadendo quasi a picco verso la superficie piatta e quasi metallica del bacino artificiale. Mentre cadeva, i cingoli continuavano a girare e il motore ululava, ma questa volta ululava di terrore. Aidak si trascinò fino all'orlo in tempo per vedere prima la forma confusa della pala caricatrice affondare negli abissi e poi alcuni dettagli del trattore mentre si schiantava nel lago, il tuono dell'impatto riecheggiò dalle pareti del canyon con un effetto rabbrividente simile ad un boato supersonico. Il bulldozer affondò nell'oscurità delle gelide acque sotto la superficie con la forma scura del caterpillar giallo cancellata dopo un secondo dal lampo di un'esplosione subacquea. Una galassia di bolle salirono in superficie e scoppiarono. Sabbia e pietre rotolarono per un altro minuto giù dalla scogliera. Tutto cessò. Non ci fu altra attività tranne il cauto avanzare di un battello a motore attraverso le increspature moribonde del lago. Un battelliere curioso, attirato dalla scena del disastro. Adesso filiamo via di qui, ordinò Smith mentre notava finalmente giù al porticciolo il pick-up allontanarsi dal bar. Aidak si alzò in piedi sgocciolando polvere e trotterellò verso Smith con un grande sorriso sinistro sulla faccia. Muoviti, gli urlò Smith. Aidak si mise a correre, si allontanarono mentre il pick-up giallo si arrampicava su per i tornanti che portavano dal porticciolo alla strada. Smith ripercorse la strada da dove erano arrivati, passando il ponte a cavalcioni del Dirty Devil e avanti verso il Colorado, ma inchiodò e svoltò brutalmente prima di raggiungere il ponte centrale, imboccando la pista per fuoristrada a nord intorno ad una curva che li nascondeva alla vista diretta di chiunque passasse lungo l'autostrada. Nascosti? Non del tutto, dato che una nuvola di polvere come la coda di un gallo gigante si agitava nell'aria, rivelando il loro passaggio sulla strada sterrata. Consapevole della polvere sollevata, Smith bloccò il furgone appena furono dietro le rocce, lasciò il motore in folle nel caso fosse necessario muoversi rapidamente. Aspettarono. Sentirono il nitrito del pick-up lanciato all'inseguimento, il fischio penetrante degli pneumatici sull'asfalto mentre correva a est. Sentirono il rumore delle sue ruote attenuarsi, il ritorno graduale della pace, della tranquillità, dell'armonia e della gioia. E questi erano Enoden con il brano With the Code of the Future, dopo le due letture consecutive di I Sabotatori di Edward Ebbey, giusto per farmi prendere a me un attimo un po' di fiato per andare a leggere il prossimo testo, del compagno Gianluca Iacovacci, in cui rivendica anche gli attacchi per cui è accusato. Allora, leggeremo il testo, lo spezzeremo in due parti con un piccolo brano in, nel mezzo, perché è veramente lunga e quindi ci vogliono le bombole di ossigeno per leggerla tutta. Quindi ci andiamo anche a ricollegare all'ultima lettura dei Sabotatori, nemmeno a farla apposta, in cui si sta preparando questo attacco. Quindi, la determinazione nella lotta e la nostra solidarietà sono le uniche armi micidiali. Cari compagni e coraggiosi resistenti, mi trovo prigioniero come tanti, colpito dalla repressione dello Stato che ci vuole annientare. Non per quello che si fa, ma per ciò che siamo, che ci siamo azzardati ad essere, a dire o pensare. Mi trovo con Adriano e tanti altri sulla giostra inquisitoria della gogna mediatica antiterroristica della democrazia. Vogliamo prima di tutto ringraziare tutte le compagne e compagni che mi hanno portato solidarietà anche oltre confine, direttamente e non, perché non sono convinto che chi ci sostiene anche solo con le parole esistente di lotta. Abbiamo la stessa rabbia contro questo esistente, grigio e misero, che ci si schiaccia e ne sentiamo le stesse ferite. Ma proveremo la stessa gioia con la meravigliosa realtà dei nostri sogni e desideri. La mia è una condizione di individuo ostile, catturato e messo in cattività. La prigionia ed i patimenti a cui vengo sottoposto sono stati escogitati premeditatamente da altri esseri umani e dipendono dalla permanenza al potere del sistema che me li ha inflitti. Sarò certo rinchiuso, ma lo spirito e le idee continuano. Non si possono tenere sotto chiave né addomesticare, e questo non può che continuare a darmi la forza di resistere. Con gioia e nelle mie piene volontà ho scelto l'anarchia e continuerò a farlo, amando la terra per ciò che è, alla continua ricerca di selvatichezza e dell'emancipazione dalle comodità, denaro compreso. Vedo nell'anarchia la pulsione selvaggia e primordiale ormai assopita, se non del tutto morta, nell'uomo civilizzato del progresso. Non ho mai adoperato mezzi termini e maniere, accetto il rischio di dovermi procurare cibo, coltivare e raccogliere quanto basta a nutrirmi. Per arrivare a questo userò ogni mezzo necessario per convincere altri individui, dopodiché potrò anche rinunciare alla penna e all'inchiostro con cui scrivo la mia rabbia. Sono da sempre a fianco della resistenza indigena, degli anti-autoritari e nativi che lottano contro le prove di forza dello Stato delle multinazionali, mettendo in pratica la resistenza attiva, il sabotaggio e l'azione diretta. Supporto tutti i compagni e le compagne che vogliono liberarsi dalle autorità e partecipano con determinazione alla lotta internazionale anticapitalista e antiimperialista. Tralasciando il bene e il male o il giusto e sbagliato, che vanno bene per le suore e i preti, la mia posizione di altri individui è spinta da propri istinti, nella possibilità dei propri mezzi e con le probabili conseguenze di rischio. Ho sempre messo in una visione unica la liberazione dell'uomo da ogni padrone e dalle sue gabbie mentali e reali, con la liberazione degli animali dalle strutture di tortura e morte e ogni altro luogo che trasforma un vivente in un prodotto, oggetto o svago. Sono anarchico, non appartengo a questo tempo di non vita meccanizzata ad uso e consumo dei governi. Non riconosco nessuno Stato, tribunale o qualsiasi altra istituzione e autorità, né i sistemi giuridici, militari, civili e religiosi. Per i giudici e magistrati in vestaglia dell'Inquisizione non sono altro che una pratica burocratica a giustificare i loro stipendi. Giudizi non ne voglio, soprattutto da chi non sa amare la terra, lottare e sognare, ma sa far solo il suo mestiere ed eseguire ordini. Non ne voglio tantomeno dal popolo, coccolato da sempre nel ventre putrido dello Stato e legato ad ogni costo alla democrazia che come parola ha ancora un buon effetto soporifero. Questi uomini di legge giocano con le loro leggi fasciste e democratiche per vomitare sentenze e nel mio caso l'appartenenza ad un'associazione terroristica organizzata, come lo sono in realtà lo Stato, gli eserciti e le multinazionali. Entrando nella fastidiosissima e paranoica caccia alle streghe, detta anche questione giudiziaria, anche una scritta su un muro viene catalogata dalla polizia politica come azione atto terroristico in esecuzione del programma, e qui ci mette un punto interrogativo tra parentesi, eversivo Federazione Anarchica Informali. In casi differenti, individualmente e insieme a compagno e fratello Adriano, a cui non trovo altro modo per esprimergli il mio affetto e la mia solidarietà, se no con la determinazione già contraccambiata con il suo coraggio e forza di spirito. Questi giochetti se li possono tenere da parte, mi sarei risparmiato parecchie rogne formali, visto che l'informalità è la mia realtà, ma non sono da solo, nel caso, in mani nemiche. Allora continuiamo con il testo del compagno Gianluca Iacovacci, continuiamo quindi con la dichiarazione e la rivendicazione degli atti di cui è accusato. Allora, le azioni a cui si riferiscono nello specifico, che non seguono nessun programma, sono state messe in pratica da me e dichiarate con comunicati Fronte Rivoluzionario Internazionale, Federazione Anarchica Informale, individualità sovversive, anticivilizzazione. E sanno bene, grazie alle loro amate telecamere, che sono state seguite da una sola persona, cioè io, in risposta alla devastazione per logiche di profitto del pianeta e delle terre in cui vivo e in solidarietà con i ribelli in conflitto con l'esistente. Il GPS e altre diavolerie che gentilmente i militari hanno installato su un'auto da me in uso da un paio d'anni mi collegherebbero, in modo indiziario o più, ad altre azioni dirette e sabotaggi. In certi casi viene da pensare alle amate biciclette, ma bisogna capire che stiamo combattendo un sistema che probabilmente vorrà installare rilevatori satellitari direttamente nelle teste delle persone. Mentre qualcuno teneva in caldo le mogli di questi predinatori, ho notato come hanno catalogato il materiale sequestrato e come hanno svolto i loro compiti di polizia politica nell'aver impaginato, anche in grassetto e copia e incolla, minuziosamente nei loro fogli diverse azioni contro gli enti energetici, industriali e commerciali, compreso un fantasioso furto di denaro e altre inutilità da un distributore incendiato. Per non intaccare la mia integrità, il coraggio e il sacrificio non mi piego al colpevole innocente, è veramente troppo. Che siano 30 o 100 azioni non importa, vorrà dire che in Italia sono 1000 e nel mondo 10.000. Comunque è ridicolo e banalmente sminutivo discuterne dei fatti, sarebbe come annullare la visione reale di conflitto e resistenza e riconoscere la logica democratica del gioco finito male o dei buoni contro i cattivi. Ora gioiscono pure dei loro trofei di caccia questi giudici, sulla vita o sulla morte dei loro simili, mentre il pianeta muore e l'uomo decade. Ma tutto ha un inizio e una fine, come i loro organi e le ossa, la legge e l'ordine cadranno e ne resterà solo cenere e macerie. La società è oramai una forzatura dei valori rabberciati e rattoppati qua e là, con sforzi coercitivi a tenerli insieme e allo stesso tempo usati per annientare individui ostili ad essi. Da secoli, in nome di Dio e potere, l'autorità impone la civilizzazione, l'ordine e la dottrina. trasforma l'uomo in macchina da forza lavoro, in contribuente e cavia per la scienza. Per pochi, quei pochi conservano nativa selvatichezza, e un pensiero conflittuale li schiaccia con la violenza, il terrore, e li rinchiude nelle galere o nei manicomi per rieducarli, fino a che non ne avrà il totale controllo. In caso contrario, agirà per il loro annientamento. I pilastri della città, stanno crollando sotto i colpi dei suoi stessi fallimenti. Sempre meno spazi restano vivibili e incontaminati. Le guerre dilagano ovunque con tutte le conseguenze, e sono sempre più efferrate a minacciare lo sterminio con armi tecnologiche e il dominio dei vinti. Queste violente e gratuite capacità di dominio e tirannia dell'uomo civilizzato sono tanto più efferate quando la società è avanzata tecnologicamente. La resistenza della macchina tecnologica industriale vive soltanto in un percorso di liberazione da ogni autorità e ordine. Corre verso un orizzonte degli eventi, un nulla non scritto. È la nuova resistenza selvaggia e informale che risponde e prende iniziativa contro la violenza dei governi sempre più blindati e spietati a reprimere gli oppositori, come le compagne e i compagni colpiti e rastrellati nelle operazioni persecutorie repressive antianarchiche e controinsurrezionali. Compagni che non si sono piegati alle torture e all'isolamento nelle sezioni speciali delle carceri e nemmeno alle ferite negli attacchi, persino alla morte. Sono orgoglioso di essere forte della mia integrità di spirito e di correre in questi sentieri difficili che ci aspettano, a fianco di non sottomessi e dei senza legge, gli anarchici. Eterni cospiratori, sognatrici e sognatori forgiati dal coraggio, che affrontano titaniche e tirannicheche forze e l'esistenza in una vita non scritta. Con elementari e limitatissimi mezzi, eppure posseggono in un'irriducibile determinazione. Per concludere, vorrei incoraggiare tutti con una metafora di quello che sento in tutti voi. Vedo lo Stato e l'ordine come un solitario uomo civile sperduto nella foresta, in balia di animali feroci. Allo scorgere dell'arrivo di una tempesta nella notte, quell'uomo non teme più di diventare pasto delle belve, ma trema all'arrivo della tempesta. Dalle valli ai monti, dalle campagne alle foreste, per la liberazione del pianeta ai suoi viventi, perché la terra vale più dello sporco denaro. Morte alla civiltà, lunga vita all'anarchia. Gianluca Iacovacci, prigioniero anarchico. E questo era il testo in cui il compagno Gianluca rivendica gli attacchi, e non solo rivendica gli attacchi, ma fa una lunga riflessione su quello che è il tutto l'esistente, il mondo, quella della validità dell'azione diretta. E quindi vabbè, l'abbiamo spezzato in due parti, perché altrimenti tutto in un solo colpo leggendolo avrebbe anche perso un pochino di significato. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono The Sister of Mercy con il brano Under the Gun, e poi dopo si ritorna qui con i Sabotatori di Edward Abbey. Strong enough. I live in E dopo il gioco, la squadra di ricerca e di soccorso vanno all'opera. Ridendo, Haydack e Smith si diedero delle pacche sulle spalle, abbracciandosi con trasporto, e aprirono la confezione da 6 fredda. Ah, il luccichio ghiacciato, oh, lo schiocco nitido della linguetta della lattina. Ah, ruggì Haydack, sentendo il primo buon sosso scorrergli nel sangue. Cazzo, questo sì che è stato bello! E saltò giù dal furgone e ballò una specie di giga, una specie di tarantella, una sorta di danza del peyote dei Sioux Unkpapa, a un ritmo di 2/4 intorno al furgone. Smith fece per seguirlo, ma prima per precauzione salì sul tettuccio della cabina a dare un'altra occhiatina. Chi poteva dire che cosa stava complottando il nemico in quel preciso istante? E aveva ragione. George, dice, interrompi la tua danza un minuto e passami il binocolo giapponese. Haydack gli passò il binocolo. Smith studiò a lungo e con attenzione la scena verso est-nord-est, sopra la roccia gobba, dritto verso quell'amabile ponte che si alza come un arco d'argento, come un arcobaleno di acciaio sopra il Narrow Canyon e il fiume Colorado temporaneamente tappato. Haydack, in attesa, ascoltava i suoni del tardo pomeriggio. Non sembrava però esserci nulla. Prevaleva una calma inquietante. Persino l'uccello, l'unico uccello che viveva nel Narrow Canyon, aveva chiuso il suo becco. Sì, è lui, disse Smith. Il coglione ritorna. Chi? Ah, è il mio amichetto Bishop Love, il buon vecchio Jay Dudley, lui, la sua squadra di ricerca e soccorso. E che cosa stanno facendo? Un po' più sobriamente adesso Haydack fece saltare un'altra linguetta da una lattina di Schlitz. Sono tutti lì sul ponte colorato che parlano con quel tipo del furgone giallo. Ma che cazzo stanno dicendo? Beh, non riesco a leggere bene i movimenti delle loro labbra, ma posso immaginare. Sì? Oh sì, Bishop Love sta dicendo all'altro tipo che non ha visto nessun pick-up verde con la copertura grigia passare sull'autostrada. E l'altro tipo sta dicendo a Bishop Love che è sicuro come l'oro, il pick-up verde indietro da lui non è tornato. Così? Il vescovo sta dicendo che devono aver svoltato in quella stradina sterrata che è proprio lì che devono essere adesso e che avremmo dovuto filarci la via da qui dove siamo già da 5 minuti. Smith saltò giù dal tettuccio della cabina e si arrampicò sul posto di guida. Andiamo, George, Haydack stava pensando. Ma avremmo dovuto portarci un bel fucile. Sali! Lui obbedì. Sì, lanciarono nella giungla di arenaria alla massima velocità possibile sulla strada sterrata a spaccarsi, 30 km orari. Ascolta, dice Haydack, hanno quelle Chevy Blazer V8. Non facciamoci prendere dal panico, ma è sicuro come la merda che ci prenderanno. Ammesso che non facciano arrivare prima degli F-104 con il napalm. Ah, lo so, disse Smith, hai forse qualche idea più brillante? Certo, li fermeremo, metteremo giù una trappola. Dove porta questa strada? C'è mica un ponticello di legno che potremmo incendiare o magari un passaggio stretto che potremmo bloccare con un mazzo? Non lo so. Pensa veloce, Seldon, ma che ne dici se stendiamo qualcosa di quelle vacche che stanno attraversando la strada? Così blocchiamo la strada, potremo rallentarli per un minuto. Ma sei tu il berretto verde specialista in guerriglia, George, sei tu che devi farti venire in mente qualcosa. Abbiamo circa 5 minuti di vantaggio, non di più. Per quello che riesco a ricordare, su questa strada i prossimi 15 km non ci sono ponticelli di legno e non ci sono strettoie e tu non sparerai a nessuna di quelle vacche. Il furgone di Smith rimbalzava e rantolava sulle rocce, fuori e dentro, attraverso le gole mortalmente piccole, frenando, scalando le marce per una corsa sulla sabbia e su per l'altro versante, aumentando le marce per uno sprint su un tratto piano, poi di nuovo le rocce, un'altra gola. Nel cassone, tutte le cose sistemate alla bella e meglio, e tra queste c'erano pentole, borse termiche, pale, ferri per il cambio dei pneumatici, un motore fuori bordo, una pentola a pressione, borracce, catena di traino, piccone, piedi di porco, scatolame, tutte insieme danzavano e tremavano, rinforzando così il clamore del camion. Al suo seguito, una splendida coda di polvere torreggiava nella sera. sospesi nel bagliore della luce solare, ogni singolo granello, travicella e particola di terra desertica era circondata da un'aureola regalata dal sole, sottolineata dalla capacità riflettente delle pareti del plateau, visibile per chilometri, una colonna di polvere di giorno, un fuoco di notte, una traccia involontaria, ma la polvere serviva anche a nascondere. La strada era impossibile, adesso divenne anche peggiore. Smith dovette fermarsi, scendere a bloccare i mozzi e inserire la trazione integrale. Haydak scese con lui, studiò il terreno. A circa 3 chilometri alle loro spalle vide i pennacchi di polvere della flotta inseguitrice, 3 blazer e un pick-up giallo che avanzavano con vigore, caldi per l'azione, bramosi di uccidere, vale dire noi. Come ci siamo ficcati in questo casino? Come ci è potuta venire un'idea tanto brillante? A est le gobbe a forma di schiena di elefante e le depressioni di arenaria degradavano verso la gola nascosta, a ovest scogliere alte 60 metri di fronte e mezzo c'era la stretta terrazza sulla quale la strada si inerpicava serpentina nel suo avanzare verso nord all'infuori della terra rossa e della sabbia marroncina. Non cresceva altro che una misera coreobine alta 30 centimetri, qualche ginepro derelitto ed alcune coriacee, yucca sulle dune. Non c'era un buco dove nascondere il camion. Muoviamoci, muoviamoci! Smith corse al posto di guida, nemmeno un camion secondario in vista. E se ce ne fosse stato uno? E se ci fossero? Infilati dentro si sarebbero trovati in un vicolo cieco, intrappolati ovunque si fossero diretti, a meno che non avessero raggiunto la roccia scivolosa. Si sarebbero lasciati dietro una traccia di segni di pneumatici nella sabbia, arbusti spezzati, pietre spostate, il deserto nudo. Non è un posto per piccoli segreti. Smith diede gas al motore. Andiamo, George! Haydak montò al volo. Rombarono lungo la strada sollevata al centro di ispidi cespugli con gli spinosi fichi d'India che artigliavano il furgone lungo l'unto perigno del suo inguine General Motors. George, dice Smith, mi è appena venuto in mente, dopo la prossima curva c'è una staccionata, la strada taglia dentro un vecchio recinto in legno che serviva per il bestiame, potremmo bruciare quello. Io verso, tu dai fuoco. Va bene, dice Smith. La staccionata apparve, posizionata ad angolo retto a tagliare la loro avanzata dalla scogliera al canyon. Un'apertura per la strada era formata da una fila di assi appoggiate su un paio di traversine ferroviarie. Per via del bestiame le ruote potevano passare, gli animali con gli zoccoli come pecore, vacche e cavalli invece non potevano. Di fianco al recinto c'era un cancello chiuso, attraverso cui però poteva essere condotto il bestiame, ma questo, come gran parte della staccionata, era ispessito e solidificato da anni di accumulo di amaranto soffiato dal vento. Da lontano lo steccato assomigliava ad una siepe scura e ingarbugliata. Il furgone passò sulle assi. Smith pigiò sul pedale del freno. Prima ancora che si fermasse, Haydak era sceso, accecato dalla polvere, e armeggiava a tentoni attorno ad una tanica di benzina assicurata alla fiancata. Aprì la tanica, correndo verso il recinto, cosparse generosamente di benzina il vecchio legno, le traverse impregnate con olio di creosoto, i pali della recinzione e, sempre correndo, il terreno sotto la massa di amaranti a destra e a sinistra, fino a dove riusciva a lanciarla. Tornando al furgone sentì un e gli dell'amaranto che divampava. Qui incontrò Smith che stava correndo verso di lui, una silhouette scura e sudata contro una barricata. Sì, una barricata di fiamme sotto un cilindro a fungo di fumo nero, maligno e abbondante. Filiamocela, disse. Sentivano già gli inseguitori alle calcagna. Smith guidava, Haydak guardava indietro, vedeva le fiamme giallo chiare nel sole, color mandarancio nell'ombra della scogliera, è un sipario purpureo di fumo e di erbacce che si allungava nel cielo. Sul lato più distante, tagliati fuori, sopraggiunsero i 4 veicoli inseguitori, rallentarono e chiaramente si fermarono. Perché? Chi sarebbe così pazzo da guidare una Blazer da $65,000 nuova di zecca, equipaggiata con tutti gli optional roll bar, frizione per lavoro pesante, serbatoio ausiliario, impianto stereo, pneumatici radiali in acciaio cinturato, coppia di proiettori di scorta, altimetro, tachimetro, livella, rilevamento, movimenti del suolo, argano cromato, Spalding, aria condizionata, antenna stilo 6.000, leva del cambio sul pavimento, tutto questo attraverso un muro di fuoco per inseguire i cattivi a bordo di un vecchio pick-up sulla base di prove, nella migliore delle ipotesi non più che circostanziate? Bishop Love, ecco chi! J. Dudley Love, vescovo di Blenheim, capitano della squadra di ricerca e soccorso. Eccolo! Quel figlio di puttana che balza in mezzo alle fiamme, superando il recinto con la Blazer, nuova, fiammante, apparentemente intatta, ma una fontana di scintille provocata dalla caduta di un legno in fiamme è sufficiente a far indugiare per un istante il secondo autista, che gira in direzione est lungo la staccionata che fiancheggia il fuoco, seguito dagli altri. Non ci mollano, li vedo. Smith pesta ancora più forte sull'acceleratore, ma la strada era troppo dissestata per aumentare la velocità. Abbiamo guadagnato un po' di terreno. No, tutto come prima. E ora? Fammi scendere. Sento, lasciami dietro quella roccia lì avanti. Gli bucherò le ruote con questi proiettili a punta cava. Poi correrò come il vento e ci conteremo a Danksville o in qualche posto sexy. Fammi pensare, un'altra birra. Sto cercando di pensare, Giorgio, aspetta. C'è una vecchia strada mineraria che sale, porta ad ovest e forse si apre in alto sulla mesa. Non lo so per certo, se mi sbaglio chiaramente siamo spacciati, se invece va però faremo perdere facilmente le nostre tracce su per i boschi. E se mi sbaglio però siamo spacciati. Haidak guardò indietro. Guadagnano terreno, se non proviamo siamo spacciati comunque. Apri un'altra birra. Allora proviamo. Superarono la curva successiva disegnata nelle pareti rocciose e là davanti, come prevedibile, c'era una biforcazione, la diramazione di destra tutta pietre e fessure, buche profonde ed erosioni provocate dall'acqua, e questa è la strada principale, la grande arteria, e l'altra sulla sinistra in qualche modo ancora peggiore per trascuratezza. Andiamo di qui, dice Smith sterzando bruscamente. Haidak si rovesciò un po' di birra sull'addome. Merda, sono già sbronzo e vorrei scusarmi per il casino in cui ti ho ficcato in questo pomeriggio che si preannunciava invece tranquillo e di riposo, capitano Smith. E se fermi sto cazzo di furgone un minuto solo per farmi scendere ci penserò io. Haidak brandiva la sua Magnum, il ferro. A questo tuo amabile vescovo ci penserò io. Sta attento a quell'accidente di pistola, George, abbiamo già abbastanza problemi. Oh, certo, hai assolutamente ragione. Haidak si rimise il revolver in tasca. Nel frattempo il furgone di Smith stava sobbalzando e trascinandosi in prima a 8 km orari su per l'antico sentiero verso ovest, un sentiero vecchio quanto il Federal Mining Act del 1872, conduceva ad una successione di tornanti su per il fianco di una scarpata tra una cozzaia di pietre e masse ai piedi della parete del plateau. Lo scenario era magnifico come al solito, ma la loro posizione precaria ed esposta, il nemico indietro solo di qualche miglio, non ancora in vista ma sempre più prossimo al contatto, spronato con vigore supplementare dall'indegnità di pantaloni bruciacchiati, coccigi delle loro auto ustionati, scroti dei differenziali arrostiti, avrebbe presto girato l'ultima curva della strada e li avrebbe visti. Haidak Smith Inc. arrancare lentamente e come scarafaggi su quell'improbabile via di uscita. Fahrwerk fährt nicht aus. Gefangen in der Welt der Technik, gefangen in einem Sarg aus Stahl. Dies ist mein letzter Flug in meine Ewigkeit. Doch ich habe keine Angst, denn du bist bei mir. We tried landing here. Du bist bei mir. Mein Vater wird stolz auf mich sein, denn ich bin schneller als der Schall und ich nehme euch jetzt alle mit. Il sentiero divenne ancora più impervio. Con le quattro ruote già innestate, Smith fu costretto a scalare di una marcia. Il furgone saliva 3 km/h verso il possibile paradiso in alto, sempre che la strada arrivasse tanto lontano. Riparo, paradiso, forse la salvezza. Scavata nella roccia con la dinamite decenni prima, la strada tendeva a scendere e a spingersi verso l'esterno. Il furgone proseguiva pericolosamente a filo dello strapiombo, lontano dalla stabilità ma molto vicino al vuoto. Haidak, che era sull'esterno, non avrebbe avuto una sola possibilità di salvezza se il furgone fosse rotolato giù. «Senti, Seldom, ferma il furgone, voglio scendere, rallenterà la marcia alla squadra di ricerca e soccorso». Smith riflette, li vedi già? No, non ancora, ma vedo la polvere che si alza dietro la curva, il vescovo sta arrivando. E allora Smith si fermò, Haidak scese, aggrappandosi al pick-up, incespicò nel terreno dissestato, aprì il portellone posteriore e raccolse il grande piede di porco in ferro. Andò al finestrino dalla parte di Smith e Smith chiede, e adesso il piano qual è? Piazzerò qualche masso sulla strada. Tu aspettami su, in cima, o fin dove riesci ad arrivare. Passami quella roba bluastra che c'è nella tasca posteriore del mio zaino. D'accordo, ti aspetterò su, o al massimo 3 km più avanti. Cosa vuoi? La pistola. No, non ti fermare, va avanti, il sole tramonterà presto. Con questo bel tempo ho un'autonomia di 30 km buoni. La pistola e la borraccia. Molla giù il mio zaino quando arrivi in cima. Niente pistole. Se i cazzoni della ricerca e soccorso mi sparano, almeno risponderò al fuoco. No, George, non possiamo, conosci la regola, ascolta. Senza quella pistola io mi sento e sono nudo come un bambino. E tentò di prendersela da solo. Smith gli bloccò il braccio. No, qui c'è la tua borraccia, George. D'accordo, Gesù Cristo, vai però adesso, perché stanno arrivando, ci vediamo dopo. Smith ripartì, Haidak prese la sua sbarra di ferro e cominciò a lavorare sul masso più vicino, giù. A 3 km di distanza i quattro veicoli inseguitori si fermarono alla biforcazione della strada. Gli insetti emersero uomini che controllavano le tracce degli pneumatici. Nel giro di un secondo avrebbero guardato nella direzione di Hajduk. Con il suo furgone Smith si arrampicava su per il ripido pendio, il motore che nitriva a pieni giri, il carico che sbatacchiava sul cassone in acciaio, il rumore, onde concentriche di suono, fluiva verso i cacciatori sotto la parete del plateau. Non c'era alcuna possibilità di nascondersi. Hajduk, senza camicia, spinse un fulcro di roccia arenaria contro il masso che intendeva spostare, raccolse tutte le sue forze ed esercitò la leva. Il masso fece qualche giro su se stesso e si fermò al centro della strada. Proviamo con qualcosa di più grosso. Trascinò la sbarra su verso un blocco impressionante staccatosi dalla parete. Dopo 2 minuti di lotta i suoi sforzi furono premiati. Il masso si mosse, girò, cominciò a rotolare di propria iniziativa. Hajduk allora si lasciò scivolare giù dalla scarpata e scomparve alla vista. Il masso rotolò attraversando la pista per fuoristrada, oltre il bordo e giù per il fianco, ribalzando da un ostacolo all'altro in una corsa da lepre verso un qualche punto di arresto. I visi pallidi all'ombra lontana guardarono in alto, ma Hajduk, trionfante, si era già messo alla ricerca del successivo missile. Venite, dai, provate a prendermi. Avrebbe bombardato i loro culi con una mitragliata di massi. La prima roccia si bloccò nei detriti ai piedi della scarpata e quindi cercò la successiva. La ricerca e soccorso stava arrivando. 4 veicoli in marcia imboccarono la diramazione di sinistra del percorso usato di rado. All'inseguimento di Hajduk Smith, Hajduk fece precipitare altre 2 grandi rocce sulla pista e si rimise in marcia per guadagnare una postazione più elevata. Con la borraccia in mano e la pesante sbarra nell'altro, il cuore pompava, il torace si dilatava, la schiena larga e villosa che splendeva sotto una pellicola di sudore. Lavoro pesante, non era nella forma in cui avrebbe dovuto essere, e appena oltre la portata di fucili, quel bersaglio ipotetico appeso tra le sue scapole prudeva con la vecchia paura familiare delle sue cellule. Trottava costante alla ricerca di altre rocce utilizzabili. Ne scovò altre 2 e si fermò quanto bastava per sollevare dalla loro base e rovesciarle sulla pista. Il sole finalmente calò dietro il bordo del plateau. Un'ombra enorme come lo stato del Connecticut si insinuava tra la terra rocciosa, cuore della regione dei canyon, velata dal caldo. Ogni azione sembrò rallentare drasticamente. Smith, 3 chilometri più avanti, preoccupato, in ansia, cercando una via d'uscita. Hajduk, ansimante, nel mezzo, che si trascinava presso la barra di 10 kg di ferro battuto. Bishop Love e la sua squadra, soccorso e recupero, più l'operatore del Caterpillar, sempre più vicini. La squadra non fu bloccata per molto dalle rocce di Hajduk. Anche l'uomo del Caterpillar impugnava una sbarra e quindi la caccia proseguì su per la collina al rallentatore, senza spari, solo qualche grido piuttosto afono, fino a che Hajduk raggiunse una posizione strategica 3 tornanti avanti e in alto, dove trovò quello che stava cercando. Era un montarozzo di pietra arenaria navajo, nella forma e nelle dimensioni di un sarcofago, graziosamente in equilibrio su un piedistallo naturale. Respirando a fatica e sudando come un cavallo, Hajduk lo raggiunse, lo tastò con le mani alla ricerca del punto migliore in cui inserire la leva, caricò tutto il suo peso sull'estremità libera e fece una prova. La pietra si mosse, pronta a rotolare, e quindi Hajduk attese. Sopra, non visibile, sentì Smith che continuava a salire. Una 30 metri più in basso, con 3 tornanti di svantaggio, la Blazer che guidava la caccia fece spuntare il naso da una curva. Il vescovo in persona. In un attimo l'obiettivo sarebbe stato a tiro. Tutte e 3 le Blazer entrarono nel suo campo visivo, digrignando i denti su per il pendio, il pick-up giallo in coda. Hajduk spinse, il masso gracchiò, si mosse in avanti cominciò a rotolare, e anche se sapeva che avrebbe fatto meglio a correr via, Haydak rimase a guardare. Il masso ruzzolò giù per la scarpata oltre i detriti, un oggetto sgraziato ma formidabile. Non guadagnava velocità, la linea di caduta non era abbastanza ripida, l'attrito e gli ostacoli sul percorso erano troppo grandi. Ma continuava a scendere, pesante e implacabile, come un rullo compressore, scalzando tutti i massi che incontrava sul suo cammino, acquisendo seguaci, avanguardie, satelliti, accoliti, con il risultato che non un masso ma un branco di massi scese a salutare e incontrare la squadra di ricerca e soccorso della contea di San Juan. La squadra incidentalmente aveva oltrepassato i confini della propria giurisdizione, avendo superato la linea di contea nel momento in cui attraversava il ponte sopra il Narrow Canyon. E gli uomini sotto, bloccati da un altro ostacolo sulla pista, guardarono in alto, su, lungo la scarpata. Alcuni cercarono riparo verso i loro veicoli, altri rimasero in piedi cercando di schivare quello che arrivava. La maggior parte dei massi passò senza fare danni, nessuno rimase colpito, ma il patriarca dei massi, il masso di Haydak, rimbalzando in linea retta, arrestò la sua corsa schiacciandosi contro il veicolo guida, quello di Bishop Love. E ci fu un gioioso e angoscioso scricchiolio di acciaio mentre la Blazer, schizzando i succhi interni, vitali, in ogni direzione, olio, diesel, liquido refrigerante, liquido dei freni, sapone per il parabrezza, affondò e scomparve sotto l'inenarrabile impatto. Le ruote dispiegate come ali dell'aquila, il corpo schiacciato come un insetto, i preziosi fluidi percolavano dai resti spiattellati, macchiando la strada. Il masso rimase sul posto, tenendo soggiogata la carcassa a riposo. L'inseguimento, almeno quello su ruote, era bloccato. Il masso e il relitto della Blazer di Love, Bishop, bloccavano la via agli altri. Haydak, deliziato, guardando giù attraverso il velo turbinante di polvere, vide i lampi del metallo delle pistole, i flash dei binocoli, il movimento degli omini appiedati. La ritirata, adesso, sembrava opportuna. Piegandosi sulla parte interna della strada, sempre con la sbarra appresso, si spinse verso i suoni distanti del furgone di Smith, ridacchiando lungo il percorso che lo condusse sulla cima della messa. E Smith lo stava aspettando, compagno. Si sedettero sul bordo della roccia, le gambe a penzoloni, sopra un salto di 50 metri e sorvegliarono da lontano la ritirata della squadra di ricerca e soccorso. Quando furono tutto spariti, celebrarono la vittoria con una pinta di Jim Beam, che è whisky, che Smith, quello scandaloso mormone non osservante, aveva casualmente trovato nella sua vecchia cassetta degli attrezzi. E quando ne ebbero scolata a metà, si cucinarono una zuppa di pancetta e fagioli. Con il buio e la luce delle stelle procedettero lungo il bordo. I fari erano spenti per sfuggire all'osservazione aerea delle Orange Cliff. Doppiarono il capo dell'Happy Canyon, superarono Lands End e giunsero all'incrocio con la strada di Hanksville. Entro mezzanotte entrarono in Hanksville, mezz'ora dopo erano sulle Henry Mountains, nei boschi da qualche parte. Si accasciarono per la notte e dormirono il sonno dei giusti, i giusti e pienamente soddisfatti. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione, punto. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org.